Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. La Locanda della Tormenta presenta Conan, il tesoro di Thranikos. Buon ascolto. Uno. Un attimo prima la radura era deserta. Un attimo dopo un uomo se ne stava immobile guardingo al limitare dei cespugli. Non c'era stato il minimo rumore ad avvertire gli scoiattoli grigi del suo arrivo, ma gli uccelli variopinti che svolazzavano nel tramonto fuggirono in un nugolo schiamazzante, spaventati dall'improvvisa apparizione. L'uomo si accigliò e si lanciò uno sguardo alle spalle nella direzione da cui era venuto, come se temesse che il loro volo improvviso tradisse la sua posizione ad occhi invisibili. Poi attraversò la radura, posando con cura i piedi sul terreno. Nonostante la corporatura massiccia e muscolosa, si muoveva con l'agile sicurezza di un leopardo. Portava solo uno straccio attorno ai fianchi e aveva gambe e braccia tutte graffiate dai rovi e incrostate di fango secco. Una benda macchiata di sangue rappreso era legata attorno al muscoloso braccio sinistro. Sotto la chioma nera, il volto era sparuto e teso e gli occhi ardevano come quelli di un lupo ferito. Zoppicando leggermente, percorse il vago sentiero che tagliava la radura. Arrivato al centro di essa, si arrestò bruscamente e con mossa felina si voltò a scrutare il sentiero appena percorso, mentre un lungo richiamo risuonava nella foresta. A un altro sarebbe parso solo l'ululato di un lupo, ma lui sapeva che non era un lupo. Un cimmero sa distinguere i suoni della foresta come l'uomo cresciuto in una città riconosce le voci dei suoi amici. La collera gli fece lampeggiare gli occhi iniettati di sangue mentre si voltava e riprendeva in fretta il sentiero. Questo, dopo la radura, costeggiava una folta macchia di rovi che cresceva in una massa compatta tra gli alberi e i cespugli. Un tronco massiccio, semisepolto nel terreno erboso, era posto parallelamente al roveto e al sentiero. Quando vide il tronco, il cimmero si fermò a scrutare di nuovo la radura. Un occhio normale non avrebbe notato la traccia del suo passaggio, ma esso appariva evidente ai suoi occhi acuti e quindi agli occhi altrettanto acuti dei suoi inseguitori. Ringhiò sommessamente, come un animale braccato. Camminò deliberatamente, senza alcuna cautela, per il sentiero, calpestando qua e là qualche ciuffo d'erba. Poi, raggiunta l'estremità del grande tronco, vi balzò sopra, si voltò e lo percorse ritroso con corsa leggera. Poiché la corteccia era stata levigata dalle intemperie, non lasciò tracce che mostrassero nemmeno lo sguardo più acuto che era tornato sui suoi passi. Raggiunta la parte più folta del roveto, svanì in esso come un'ombra e nemmeno un lieve tremolio di foglie denotò il suo passaggio. I minuti si trascinarono lenti. Gli scoiattoli grigi tornarono a squittire. Poi appiattirono i loro corpi contro i rami e tornarono improvvisamente muti. La radura era di nuovo invasa. Silenziosi come il primo, tre uomini si materializzarono al limite orientale della radura. Erano bassi di statura e scuri di pelle, con braccia e torace muscolosi. Indossavano pelli di daino imperlinate, annodate sui fianchi. In testa, infilata tra i capelli raccolti a ciuffo, portavano una penna d'aquila. I loro corpi erano dipinti con disegni elaborati e in mano avevano delle rozze armi di rame battuto. Dovevano aver scrutato attentamente la radura prima di mostrarsi all'aperto, perché uscirono dai cespugli senza esitazione, in fila indiana, procedendo leggeri come leopardi e curvi per osservare il sentiero. Seguivano le tracce del cimmero, Compito non facile, nemmeno per quei segugi umani. Attraversarono lentamente la radura. Poi uno di loro si irrigidì e, borbottando, indicò con la lancia dalla lama larga un ciuffo d'erba calpestato, nel punto in cui il sentiero entrava di nuovo nella foresta. Gli altri si fermarono di colpo e i loro piccoli occhi neri scrutarono la verde barriera della foresta. Ma la preda era ben nascosta. Non notando nulla che potesse far nascere dei sospetti, si mossero ancora più rapidamente, seguendo le deboli tracce che ora la loro preda lasciava, resa forse meno cauta dalla debolezza o dalla disperazione. Avevano appena superato il punto in cui il roveto cresceva più vicino al vecchio sentiero, quando il cimmero balzò alle loro spalle, impugnando le armi che aveva sfilato dalla cintura. Un lungo coltello con la lama di rame nella sinistra e un'ascia dello stesso metallo nella destra. L'attacco fu così rapido e inaspettato che il selvaggio che chiudeva la fila non ebbe alcuna possibilità di scampo. Il cimero gli affondò il pugnale nella schiena e la lama penetrò nel cuore prima ancora che il pitto si accorgesse del pericolo. Gli altri due rotearono su se stessi con l'insidiosa rapidità dei selvaggi, ma il cimero, mentre strappava il coltello dalla schiena della sua vittima, vibrava già un colpo tremendo con l'ascia da guerra. Il secondo pitto non si era ancora completamente voltato che l'ascia gli calava sul cranio, spaccandoglielo fino alla mascella. L'ultimo, un capo, a giudicare dalla punta scarlatta della penna d'aquila, balzò selvaggiamente all'attacco. Vibrò un colpo di lancia al petto del cimero, mentre questi strappava l'ascia dal cranio del morto. Il cimero era avvantaggiato dal possedere maggiore intelligenza e un'arma in mano. Calò l'ascia in un fendente per parare il colpo di lancia e affondò dal basso in alto il coltello nel ventre di Pinto. Un terribile ululato proruppe dalle labbra del pitto che crollava a terra sventrato. Al grido, pieno di furia bestiale repressa, rispose un selvaggio coro di urla provenienti da una certa distanza a oriente nella radura. Il cimero sobbalzò convulsamente, pronto a scattare come un animale stanato. Le labbra schiuse in un ringhio, tergendosi il sudore dal volto. Il sangue gli gocciolava lungo l'avambraccio, da sotto la fasciatura. Con un'affannosa e incoerente imprecazione, si voltò e fuggì verso occidente. Adesso non procedeva più con cautela, ma affidava la sua salvezza alle lunghe gambe, chiamando a raccolta le provate ma inesauribili riserve d'energia, compensazione naturale per un'esistenza selvaggia. I boschi alle sue spalle furono di un tratto silenziosi. Poi un demoniaco scoppio di urla echeggiò e il cimmero capì che i suoi inseguitori avevano scoperto i corpi delle vittime. Non aveva fiato per maledire le goccioline di sangue che continuavano a cadere per terra dalla ferita riaperta, lasciando una traccia che anche un bambino avrebbe potuto seguire. Aveva pensato che forse quei tre pitti erano tutto quello che restava del gruppetto che gli aveva dato la caccia per più di un centinaio di miglia. Ma avrebbe dovuto sapere che quei lupi in forma umana non avrebbero mai abbandonato una pista di vendetta. I boschi furono di nuovo silenziosi. Ciò significava che i pitti correvano dietro di lui, lungo una pista segnata dalle gocce di sangue traditrici che non riusciva ad arrestare. Una raffica di vento occidentale, carica di umidità salmastra, gli schiaffeggiò il volto. Ne rimase stupito. Se il mare era così vicino, la caccia doveva essere stata più lunga di quanto avesse mai immaginato. Ma ormai era sul punto di concludersi. Persino la sua vitalità di lupo vacillava sottoposta a quella terribile tensione. Ansimava e sentiva un'acuta fitta di dolore al fianco. Le gambe gli tremavano per la stanchezza. Ogni volta che poggiava il piede a terra, la gamba ferita gli doleva come se un coltello gli tagliasse i tendini. Aveva obbedito al suo istinto di barbaro, tendendo ogni nervo e ogni fibra, esaurendo ogni espediente e ogni trucco per sopravvivere. Ora, giunto alla fine, stava seguendo un altro istinto: cercare un posto in cui rifugiarsi e vendere la vita a caro prezzo. Non abbandonò il sentiero per le macchie aggrovigliate che lo costeggiavano. Era inutile, e lo sapeva, sperare di sfuggire adesso agli inseguitori. Corse lungo il sentiero mentre il sangue gli pulsava sempre più sordo negli orecchi e ogni respiro era un ansito secco e torturato. Un furioso alatrato alle sue spalle gli annunciò che i suoi inseguitori erano ormai vicinissimi e certi di raggiungere la preda. Sarebbero arrivati rapidi come lupi affamati, ululando a ogni balzo. Il folto terminò bruscamente. Proprio davanti a sé vide la parete di una rupe che saliva quasi in verticale dal terreno, senza alcun pendio intermedio. Due rapide occhiate a destra e a sinistra gli dissero che aveva davanti a sé una rupe rocciosa isolata che si ergeva come una torre dalla profondità della foresta. Da ragazzo il cimero aveva scalato le ripide montagne della terra natia, ma mentre avrebbe potuto scalare la parete più vicina se fosse stato in buone condizioni fisiche, capì che aveva ben poche possibilità di successo in quell'occasione, ferito e debole com'era. Nel tempo che avrebbe impiegato a inerpicarsi per pochi metri, i pitti sarebbero sbucati dal bosco e l'avrebbero riempito di frecce. Forse, però, l'altra parete della rupe si sarebbe rivelata meno difficoltosa. Il sentiero piegava a destra attorno alla roccia. Seguendolo, scoprì che lungo la parete occidentale esso serpeggiava fra una serie di sporgenze contornate da massi irregolari fino ad un'ampia spianata prossima alla cima. Sarebbe stato un posto buono come un altro per morire. Mentre il mondo attorno a lui vorticava in una rossa foschia, il cimmero zoppicò lungo il sentiero, avanzando sulle ginocchia nei tratti più ripidi, tenendo il coltello stretto tra i denti. Non aveva ancora raggiunto la terrazza sporgente che una quarantina di selvaggi emersero di corsa dall'altro lato della roccia, ululando come lupi. Alla vista della preda, le urla salirono in un infernale crescendo e i selvaggi corsero ai piedi della rupe scoccando le frecce. I dardi piovvero attorno all'uomo che si arrampicava faticosamente e uno lo colse al polpaccio. Senza nemmeno fermarsi, lo strappò via, incurante delle altre frecce meno precise che andavano a spezzarsi contro le rocce attorno a lui. Con una smorfia selvaggia si sollevò oltre il bordo della spianata e si rigirò, estraendo l'ascia e trasferendo il coltello nella mano. Rimase disteso immobile a osservare i suoi inseguitori, visibile solo per un ciuffo di capelli e per gli occhi fiammeggianti. Il torace gli doleva mentre inspirava l'aria a grandi ansimanti boccate e strinse i denti per ricacciare la nausea che saliva dentro di lui. Solo qualche freccia sibilò ancora attorno al cimmero. L'orda sapeva che la vittima era ormai presa in trappola. I guerrieri avanzarono ululando, le asce da guerra in mano, balzando agilmente sulle rocce alla base della rupe. Il primo a raggiungere la parte più scoscesa fu un guerriero scuro, la cui penna d'aquila dalla punta scarlatta lo indicava come capo. Si fermò un attimo, un piede poggiato sul sentiero in salita, la freccia incoccata e l'arco teso, la testa inclinata all'indietro e le labbra dischiuse in un grido di esultanza. Ma il dardo non fu scoccato. Il pitto si irrigidì, mentre il desiderio di sangue che gli brillava negli occhi lasciava posto a un lampo di stupore e di riflessione. Con un grido indietreggiò e allargò le braccia per trattenere l'impeto dei suoi guerrieri. Anche se l'uomo sulla spianata più in alto capiva la lingua dei pitti, era troppo lontano per afferrare il significato delle frasi spezzate che il capo rivolgeva ai suoi uomini. Le grida cessarono e i selvaggi rimasero muti a fissare non tanto la loro vittima, quanto sembrava la stessa rupe. Quindi, senza altri indugi, sganciarono la corda degli archi e li riposero dentro il fodero di pelle di daino appeso alla cintura. Poi si voltarono e si incamminarono per il sentiero dal quale erano venuti, scomparendo oltre la curva della balza, senza nemmeno volgere lo sguardo. Il cimmero era stupito, ma conosceva troppo bene i pitti per sapere che non sarebbero più tornati. Ormai sarebbero ritornati ai loro villaggi, posti a un centinaio di miglia a oriente. Ma non riuscì a spiegarsi il loro comportamento. Che cosa c'era nel suo rifugio da costringerli ad abbandonare la preda che avevano inseguito con l'accanimento di lupi famelici? Egli sapeva che esistevano alcuni luoghi sacri, sorta di santuari dei vari clan, e che un fuggitivo che avesse trovato riparo in uno di essi sarebbe stato risparmiato dalla tribù che l'aveva edificato. Ma i clan raramente rispettavano i santuari delle altre tribù, e gli uomini che l'avevano inseguito certamente non possedevano santuari in quella regione. Erano uomini della tribù dell'Aquila, i cui villaggi sorgevano molto lontano ad oriente, in prossimità dei territori della tribù del lupo. Erano stati proprio i lupi a catturare il cimmero, quando dopo la fuga da Aquilonia si era nascosto nella foresta, cedendolo poi alla tribù delle Aquile in cambio di un capolupo prigioniero. Le Aquile avevano un conto da regolare con il gigantesco cimmero, conto divenuto ancora più sanguinoso dopo la sua fuga, costata la vita a uno dei loro capi. Per questo l'avevano inseguito con tanta implacabilità attraverso ampi fiumi e spoglie colline e per miglia e miglia tenebrose e sui territori di caccia di tribù ostili. E ora, i sopravvissuti a quella lunga caccia avevano girato le spalle alla loro vittima proprio quando era ormai stanata e intrappolata. Scosse la testa, senza riuscire a comprendere. Cautamente si alzò, stordito per la lunga fuga e ancora non del tutto conscio che era finita. Aveva le gambe rigide e le ferite gli dolevano. Sputò la polvere ingoiata e imprecò, sfregandosi con il polso gli occhi ardenti e iniettati di sangue. Ammiccò, osservando il paesaggio che lo circondava. Ai suoi piedi, la foresta verdeggiante si estendeva per miglia e miglia come una grande massa compatta, e sopra il bordo occidentale una foschia grigio-azzurra rivelava la presenza dell'oceano. Il vento scompigliò la chioma nera e il penetrante odore salmastro lo rinvigorì. Allargò il torace massiccio e inspirò una lunga boccata. Poi, dolorante, maledicendo la ferita che gli faceva sanguinare il polpaccio, esaminò lo spiazzo su cui si trovava. Dietro di esso, per una decina di metri, si ergeva una parete di roccia a picco. Una sorta di stretta scala costituita da appigli scavati nella roccia conduceva a una larga fenditura, sufficientemente alta per far passare un uomo che si apriva nella parete del dirupo a qualche metro di distanza dalla base. Zoppicando, si diresse verso la fenditura, sbirciò dentro e mandò un grugnito. Il sole, alto sulla foresta occidente, gettava un raggio di luce nella fenditura, illuminando una specie di galleria chiusa all'estremità di un'arcata, dove era sistemata una grossa porta di quercia listata di ferro, illuminata dal raggio di sole. Era stupefacente. Quella contrada era desolata e selvaggia. Il cimmero sapeva che la costa occidentale, per migliaia di miglia, era completamente spoglia e disabitata, fatta eccezione per i villaggi delle feroci tribù costiere, ancora meno civili delle consorelle insediate nella foresta. I più vicini avamposti della civiltà erano situati lungo il fiume del Tuono, a centinaia di miglia a oriente. Il cimmero sapeva che nessun altro bianco aveva mai attraversato la landa desolata che sorgeva tra il fiume e la costa. Eppure la porta non poteva essere opera dei Pitti. Essendo la sua presenza in quel luogo inspiegabile, la porta era sospetta e con sospetto vi si avvicinò tenendo pronti ascia e coltello. Poi, quando i suoi occhi iniettati di sangue si furono abituati alla rarefatta oscurità che stava in agguato oltre il piccolo raggio di sole, notò qualcos'altro. La caverna si allargava poco prima della porta e lungo le pareti erano allineati cofani massicci listati di ferro. Una luce di comprensione gli brillò negli occhi. Si chinò su uno dei cofani, ma il coperchio resistette ai tentativi di sollevarlo. Fece per spezzare l'antica serratura con l'ascia, ma poi cambiò parere e si diresse zoppicando verso la porta. Ora si sentiva più fiducioso e riappese le armi alla cintura. Spinse il battente ornato di intagli ed esso si aprì senza resistenza. Poi, con fulminea rapidità, il suo comportamento mutò di nuovo. Indietreggiò con un'imprecazione stupita e impugnò ascia e coltello, tenendo l'imposizione di difesa. Per un attimo rimase immobile, simile a una statua feroce e minacciosa, allungando il collo muscoloso per sbicciare dentro la stanza. Oltre la porta c'era una caverna, più buia del tunnel, illuminata solo dal debole bagliore proveniente da una grande gemma poggiata su una piccola base d'avorio, al centro del massiccio tavolo d'ebano attorno al quale sedevano quelle figure silenziose che tanto avevano stupito il cimmero. Esse non si mossero, né voltarono la testa verso di lui, ma la nebbiolina bluastra che sovrastava la stanza sembrò agitarsi come un essere vivente. «Allora, siete tutti ubriachi?» chiese il cimmero con rudezza. Non ci fu risposta. Non era un uomo che si lasciasse facilmente sconcertare, eppure in quel momento si sentì a disagio. «Potreste almeno offrirmi un bicchiere del vino che state bevendo?» brontolò. La naturale aggressività del suo carattere era accresciuta dalla stranezza della situazione. «Per Crom! Vi dimostrate ben poco cortesi con uno che ha fatto parte della vostra confraternita. Volete forse...» La voce si smorzò lentamente. Il cimmero rimase in silenzio ad osservare quelle bizzarre figure taciturne sedute attorno al grande tavolo d'ebano. «Non sono ubriachi. Non stanno neppure bevendo. Che scherzo diabolico è mai questo?» Mosse alcuni passi superando la soglia. Immediatamente il tremolio della nebbiolina azzurra si fece più rapido. Ondeggiando, essa si solidificò e il cimmero si trovò a lottare per la vita contro immense mani tenebrose che cercavano di afferrarlo alla gola. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet. E scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo Store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni pasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. Due. Belesa diede un pigro calcetto alla conchiglia con la punta della raffinata pantofolina e ne paragonò mentalmente il rosa delicato dell'interno con la foschia rosata dell'alba che si era levata sul lido brumoso. Il sole del primo mattino non aveva ancora disperso le lievi nuvole perlacee che scivolavano sul mare verso occidente. Sollevò la testa superbamente modellata e fissò il panorama per lei estraneo e odioso, eppure tristemente familiare in ogni suo dettaglio. Mossa dai suoi piedini, la sabbia scivolò a incontrare le pigre onde del mare che si perdeva nella foschia azzurrognola dell'orizzonte. Si trovava nell'incurvatura meridionale di un'ampia baia. Alla sua destra il pendio terminava nella piccola scogliera che formava una delle punte della baia. Lei sapeva che da quel punto lo sguardo poteva spaziare lontanissimo sopra le acque spoglie, tanto a meridione quanto a occidente e a settentrione. Volgendo il capo verso terra, osservò con indifferenza il fortino in cui abitava già da un anno e mezzo. Contro il cielo grigio perla del mattino sventolava lo stendardo d'oro e scarlatto della sua casata. Ma il falcone rosso in campo dorato non risvegliò alcun entusiasmo nel suo giovane petto, anche se aveva sventolato su molti campi di battaglia dell'estremo meridione. Scorse le figure degli uomini al lavoro nei giardini e nei campi che cingevano da presso il forte, quasi volessero ritirarsi da quella lingua di foresta tenebrosa che limitava l'aperta pianura a oriente, spingendosi poi a perdita d'occhio verso settentrione e meridione. Temeva quella foresta e la sua paura era condivisa da tutti nella piccola comunità, e non senza motivo. La morte stava in agguato nelle sue sussurranti profondità, morte rapida e orribile, morte lenta e spaventosa, nascosta, instancabile e inesorabile. Sospirò e si avvicinò all'acqua senza nessuno scopo particolare. I giorni si trascinavano lentamente tutti uguali, e il mondo, fatto di città e di corti e di gaiezza, sembrava lontano migliaia di miglia e di secoli. Ancora una volta cercò di immaginare il motivo che aveva costretto un conte di Zingara a fuggire con i suoi servi su quella costa selvaggia, a centinaia di miglia dalla terra che lo aveva visto nascere, cambiando il castello dei suoi antenati con una capanna di tronchi. Lo sguardo di Belesa si addolcì al rumore lieve dei piccoli passi nudi sulla sabbia. Una fanciulla arrivò di corsa verso di lei, saltando sugli scogli bassi e coperti di sabbia, nuda e gocciolante, i capelli biondi incollati alla piccola testa. Gli occhi ansiosi erano spalancati per l'eccitazione. «Lady Belesa! Oh, Lady Belesa!» gridò, pronunciando le parole zingariane con un leggero accento ofiriano. Senza fiato per la corsa, la fanciulla balbettò gesticolando. Belesa sorrise e l'abbracciò, non curante del fatto che quel corpo umido e caldo le bagnasse la veste di seta. In quella solitaria e isolata esistenza, Belesa aveva riversato tutta la tenerezza del suo carattere sulla povera trovatella, che aveva strappato alle angherie di un padrone brutale durante il viaggio che li allontanava dalle coste meridionali. «Cosa vuoi dirmi, Tina? Riprendi fiato, cara!» «Una nave, Lady Belesa! Stavo nuotando in una pozza lasciata dalla marea da quella parte degli scogli quando l'ho vista, una nave proveniente da sud!» Toccò timidamente la mano di Belesa, il piccolo corpo tremante. E Belesa, al solo pensiero di un visitatore sconosciuto, sentì il cuore batterle più forte. Da quando erano approdati a quei lidi deserti, non avevano più visto una vela. Tina corse davanti a lei sulla sabbia dorata, evitando le piccole pozze che la marea, ritirandosi, aveva lasciato. Salirono sulla bassa scogliera ondulata. Tina si fermò in cima, la snella figuretta bianca stagliata contro il cielo nitido, gli umidi capelli biondi scompigliati dalla brezza e il fragile braccio teso a indicare. «Guarda là, signora!» Belesa l'aveva già scorta. Una bianca vela rigonfia, spinta dal fresco vento meridionale, avanzava lungo la costa poche miglia dall'estremità della baia. Il suo cuore mancò un battito. Qualsiasi novità, seppur piccola, può apparire enorme per un'esistenza monotona e solitaria. Ma Belesa avvertì una sensazione premonitrice di eventi violenti e strani. Intuì che non per caso quel veliero si era spinto su quella costa. Non c'erano porti a settentrione, anche veleggiando fino a raggiungere le spiagge di ghiaccio, e il più vicino porto meridionale si trovava non meno di 1000 miglia. Che cosa aveva portato quegli stranieri alla solitaria baia di Corvela, come l'aveva battezzata suo zio quando vi era sbarcato? Tina si strinse contro la padrona, con il visino velato dall'apprensione. «Chi può essere, signora?» balbettò, le pallide guance arrossate dal vento. «È l'uomo di cui il conte ha paura?» Belesa le rivolse uno sguardo accigliato. «Perché dici questo, bambina? Come sai che mio zio ha paura di qualcuno? Deve essere così, o non sarebbe mai venuto a nascondersi in questo posto solitario? Guarda, signora, guarda come si avvicina rapido!» «Dobbiamo informare mio zio. Le barche da pesca non sono ancora uscite e quindi nessuno avrà ancora avvistato il veliero. Vestiti, Tina, presto!» La fanciulla saltellò verso la pozza dove si era bagnata e afferrò sandali, tunica e cintura che aveva lasciato sulla sabbia. Poi risalì a balzi vestendosi. Belesa, lanciato un ultimo sguardo preoccupato al veliero, la prese per mano e insieme si diressero di corsa verso il forte. Pochi minuti dopo il loro ingresso nella palizzata di tronchi che circondava l'edificio, le note acute di una tromba avvertirono i contadini e gli uomini che stavano aprendo la rimessa per spingere le barche sui rulli fino alla riva del mare. Tutti quelli che si trovavano fuori dal forte abbandonarono gli attrezzi o smisero il loro lavoro e corsero tutti alla palizzata, senza indugiare a guardarsi intorno alla ricerca della causa dell'allarme. Mentre convergevano da varie direzioni verso la porta spalancata, ogni testa era voltata a guardare da sopra la spalla la linea scura dei boschi a oriente. Nemmeno uno guardava in direzione del mare. Si accalcarono alla porta gridando domande alle sentinelle che pattugliavano le passerelle sotto le cime appuntite dei tronchi che formavano la palizzata. «Che cosa succede? Perché siamo stati chiamati? Stanno forse arrivando i pitti?» Per tutta risposta, un armigero taciturno, con addosso una cotta di cuoio consunto e una lancia arrugginita, indicò verso meridione. Dalla sua posizione sopraelevata, il veliero adesso era visibilissimo e gli uomini salirono sulla passerella a guardare verso il mare. Da una piccola torre di vedetta sul tetto della residenza padronale, fatta di tronchi come tutti gli altri edifici del forte cintato, il conte Valenzo di Corzetta osservò il veliero che doppiava il capo meridionale della baia. Il conte era un uomo magro e muscoloso, di altezza media, sulla cinquantina. Aveva un'espressione cupa e melanconica. La calzamaglia e il farsetto che indossava erano di seta nera e l'unico particolare colorato della sua tenuta erano le gemme scintillanti sull'elsa della spada e il mantello color vinaccia negligentemente buttato sulle spalle. Si tormentò nervosamente i sottili baffetti neri e rivolse uno sguardo cupo al siniscalco, un individuo dai lineamenti duri, in cotta di maglia e calzoni di raso. «Che cos'è, Galbro?» «Una caracca, signore! Una caracca con l'armamento e le attrezzature delle imbarcazioni dei pirati baracani! Guardala!» Un coro di urla provenienti dal basso fece eco alle sue parole. La nave aveva doppiato il capo e stava piegando verso riva. E tutti videro la bandiera all'albero maestro, un drappo nero con il profilo di una mano scarlatta. La gente dentro la palizzata osservò impaurita il temuto emblema. Poi tutti alzarono gli occhi verso la torre, dove il signore del forte stava immobile e corrucciato, il mantello svolazzante nel vento. «Sono baracani, certo! E se non sono pazzo, quello è la mano rossa di Strombanni! Che cosa è venuto a fare su questa costa desolata?» «La sua presenza non significa niente di buono per noi», brontolò il conte e abbassò lo sguardo. La massiccia porta era stata sprangata e il capitano, riconoscibile dall'armatura scintillante, stava facendo schierare i suoi armigeri, alcuni sui bastioni, altri accanto alle feritoie più in basso, e faceva ammassare il grosso delle forze lungo la palizzata occidentale, quella su cui si apriva la porta. Un centinaio di uomini, tra armigeri, vassalli e servi, avevano seguito con le famiglie Valenso nel suo esilio. Di essi una quarantina erano soldati, equipaggiati con elmo e cotta di maglia e armati di spade, asce e balestre. Ma il resto degli uomini era protetto solo dalle tuniche di cuoio. Però erano gente coraggiosa, esperta nell'uso dell'arco da caccia, dell'accetta da boscaiolo e della lancia per cinghiali. Si appostarono guardando torvi i loro secolari nemici. I pirati delle isole Baraka, un piccolo arcipelago al largo della costa sud-occidentale di Zingara, predavano da più di un secolo gli abitanti del continente. Gli uomini appostati sulla palizzata impugnarono gli archi o le lance e fissarono cupamente la caracca che gondolava verso riva, gli ottoni scintillanti al sole. Potevano scorgere le figure che si ammassavano sul ponte e udire le grida dei marinai. L'acciaio balenava lungo la murata. Il conte aveva lasciato la torretta, spingendo davanti a sé la nipote e la bambina. Indossati elmo e corazza, si diresse alla palizzata per dirigere la difesa. Gli uomini lo guardarono con cupo fatalismo. Avrebbero venduto le loro vite al più caro prezzo possibile, ma avevano ben poche speranze di vittoria, nonostante la posizione favorevole. Erano convinti di essere spacciati. Dopo aver vissuto per più di un anno su quella costa desolata, con la minaccia della foresta e dei suoi abitanti che combeva su di loro, sentivano l'animo in preda ai più funesti presagi. Le loro donne, silenziose e immobili sulla soglia delle capanne, quietavano il clamore dei bambini. Belesa e Tina osservavano con ansia il mare dalla finestra più alta della residenza e Belesa avvertiva la tensione di quel piccolo corpo tremante stretto nell'incavo del suo braccio. «Getteranno l'ancora vicino alla rimessa delle barche!» «Sì, ecco che gettano l'ancora a un centinaio di metri dalla spiaggia!» «Oh, non tremare così, piccola Tina! Non possono prendere il forte! Forse desiderano solo cibo e acqua fresca! Forse è stata una tempesta a spingerli in queste acque!» «Vengono a riva con le scialuppe! Oh, signora mia, ho paura! Sono degli omacci in armatura! Guarda come il sole tra i bagliori di fuoco dalle loro lance e dagli elmi!» «Ci mangeranno, signora Belesa!» Nonostante la tensione del momento, Belesa scoppiò a ridere. «Certo che no, Tina! Chi ti ha messo quest'idea in testa? Zingelito mi disse una volta che i baracani mangiano le donne!» «Ma no, ti canzonava! I baracani sono crudeli, ma non sono peggiori dei rinnegati zingariani che si fanno chiamare bucanieri! Anche Zingelito era bucaniere un tempo! Era cattivo!» «Sono contenta che i pitti gli abbiano tagliato la testa!» «Zitta, Tina! Non devi parlare in questo modo! Guarda, i pirati hanno raggiunto la spiaggia! Si sono schierati lungo la riva e uno di essi si sta avvicinando al forte! Sarà Strombanni!» «Hola, del forte! Vengo a parlamentare!» Il conte sporse il capo protetto dall'elmo sopra i tronchi appuntiti della palizzata. Il volto magro, incorniciato dall'acciaio, esaminò con sdegno Strombanni. Giunto a portata di voce, il pirata si era fermato. Era un uomo massiccio, a capo scoperto, con quei capelli fulvi che si vedono di tanto in tanto fra gli argosiani. Di tutti i predoni che infestavano le isole Baraka, nessuno godeva peggior fama di lui. «Parla e sbrigati! Non ho alcun desiderio di conversare con uno della tua razza!» Strombanni rise con le labbra, ma non con gli occhi. «Quando l'anno scorso il tuo galeone mi sfuggì in quella tempesta al largo delle Tralibbe, non immaginavo di incontrarti di nuovo sulla costa Pitta, Valenso! Ma mi ero chiesto allora quale potesse essere la tua destinazione! Per Mitra! Se l'avessi saputo ti avrei seguito allora! Quando ho visto il tuo falcone scarlatto svettare sopra un forte, là dove non avrebbe dovuto esserci che una spiaggia deserta, ho avuto la più grossa sorpresa della mia vita. E l'hai trovato, dunque?» «Trovato cosa? Ah, non cercare di fingere con me! So perché sei qui, Valenso, e io ci sono venuto per la stessa ragione. Non voglio essere ostacolato. Dov'è la tua nave? Non sono affari tuoi!» «Ah, non hai nessuna nave! Ho visto pezzi dell'albero maestro tra i tronchi della palizzata. Deve essere in qualche modo naufragata dopo che sei sbarcato qui. Se avessi avuto una nave, te ne saresti andato con il bottino. Di che stai parlando, maledetto? Il bottino? Sono forse un baracano io che metta a fuoco e a sacco? E se anche lo fossi, che cosa avrei saccheggiato su questa costa deserta? Quello che sei venuto a cercare, Valenzo. La stessa cosa che cerco io e che avrò a tutti i costi. Ma voglio fare un patto con te. Dammi il bottino e me ne andrò lasciandoti in pace. Tu devi essere ammattito! Sono venuto qui in cerca di solitudine, strombanni, di isolamento, e li ho trovati, finché non sei strisciato tu fuori dal mare, cane della testa gialla! Sparisci adesso! Non ho chiesto io di parlamentare e sono stanco di queste chiacchiere! Raduna i tuoi furfanti e andatevene! Quando me ne sarò andato, questo tugurio sarà ridotto in cenere, Valenzo! Per l'ultima volta, consegnami il bottino e avrete salva la vita! Siete intrappolati qui, circondati da 150 uomini pronti a tagliarvi la gola a un mio ordine! Per tutta risposta, il conte fece un rapido cenno con la mano agli uomini sui bastioni. Quasi immediatamente una freccia sibilò fuori da una feritoia e andò a spezzarsi contro il pettorale di Strombanni. Il pirata lanciò un urlo feroce, balzò indietro e corse verso la spiaggia, mentre altre frecce fischiavano attorno a lui. I suoi uomini lanciarono un ruggito e avanzarono come un'onda, mentre le lame balenavano al sole. «Cane maledetto!» tuonò il conte, calando il pugno guantato di ferro sull'arciere colpevole. «Perché non hai mirato alla gola sopra la gorgiera? Pronti con le balestre voi! Soldati, arrivano!» Ma Strombanni arrestò la carica dei suoi. I pirati si allargavano a ventaglio fino a coprire tutto il lato occidentale. Poi avanzarono cautamente scoccando le frecce. Sebbene la loro mira fosse considerevolmente migliore di quella dei zingariani, dovevano alzarsi in piedi per poter adoperare i lunghi archi, mentre gli zingariani, protetti dalla palizzata, scagliavano dardi e frecce con archi e balestre, mirando più accuratamente. Le lunghe frecce dei pirati compivano una parabola sopra la palizzata e andavano a conficcarsi al suolo. Una di esse colpì il davanzale dal quale Belesa stava osservando la scena. Tina gridò e indietreggiò, fissando la freccia vibrante. Gli zingariani rispondevano al tiro prendendo senza fretta la mira. Le donne avevano radunato i bambini all'interno delle capanne e ora si preparavano ad affrontare con coraggio qualsiasi destino gli dei tenessero in serbo per loro. I baracani erano famosi per il loro furioso e irruente stile di battaglia, ma erano altrettanto cauti come feroci e non avevano intenzione di sprecare invano le loro forze in un attacco frontale ai bastioni. Avanzavano strisciando in formazione allargata, approfittando di ogni depressione del terreno e di ogni ciuffo di vegetazione per ripararsi. Il che non era molto, perché il terreno era stato spianato tutt'attorno al forte per paura delle incursioni dei pitti. A mano che i pirati si avvicinavano al forte, i colpi dei difensori diventavano più efficaci. Qua e là giacevano già dei corpi, il dorsale della corazza scintillante al sole e una freccia sporgente da una ascella o dal collo. I feriti gemevano e si lamentavano. I pirati si spostavano rapidi come gatti, cambiando continuamente posizione, protetti dalle loro armature leggere. I loro tiri costituivano un'incessante minaccia per gli uomini sui bastioni. Eppure era evidente che finché la battaglia si fosse limitata ad un semplice scambio di frecce, la vittoria sarebbe stata degli zingariani. Ma dentro la rimessa delle barche sulla spiaggia c'erano uomini che lavoravano d'ascia. Il conte lanciò una violenta imprecazione, vedendo la fine che facevano quelle barche faticosamente costruite con tavolame segato dai solidi tronchi. «Si stanno costruendo un riparo mobile, i maledetti! Una sortita, subito, prima che lo completino, mentre sono ancora sparpagliati!» Galbro scosse la testa, guardando gli uomini di fatica, sprovvisti di corazza e armati di sole lance. «Le loro frecce ci crivellerebbero e non avremmo alcuna possibilità di vittoria in un corpo a corpo! Dobbiamo restare dentro la palizzata, signore, e confidare nell'abilità dei nostri arcieri!» «Niente da dire, purché riesciamo a tenerli fuori dalla palizzata!» brontolò Valenzo. L'inconcludente duello di archi continuava. Poi un gruppo di 30 pirati avanzò, spingendosi davanti un grande scudo fatto con le tavole stesse prese dalle barche e dalla rimessa. Avevano trovato un carro con solide ruote di quercia e ci avevano piazzato sopra il riparo. Mentre lo facevano rotolare pesantemente, erano nascosti alla vista dei difensori, tranne i piedi in movimento. Il carro avanzò verso la porta e la linea sparpagliata di arcieri fece una conversione verso di esso senza smettere di lanciare frecce. «Tirate! Fermateli prima che raggiungano la porta!» urlò Valenso, livido per l'ira. Una nuvola di frecce sibilò dalla palizzata, andando a conficcarsi senza far danno nel legno dello scudo, tra le urla di derisione dei predoni. I pirati, fattisi più vicini, riuscivano a colpire le feritoie. Con un grido strozzato, un soldato precipitò dai bastioni, la gola trapassata da una freccia. «Mirate ai piedi! 40 uomini alla porta con picche ed asce! Il resto difende la palizzata!» urlava Valenso. Ma i dardi andavano a conficcarsi nella sabbia davanti allo scudo mobile. Un urlo gravido di vendetta annunciò che una freccia era andata a bersaglio sotto il bordo del carro. Un uomo se ne allontanò saltellando su una gamba sola e lanciando imprecazioni mentre tentava di estrarre la freccia che gli aveva trafitto un piede. In un attimo venne crivellato di frecce. Ma i pirati, con un coro di urla rauche, stavano già spingendo lo scudo contro la porta. Da un'apertura praticata al centro del riparo mobile fecero uscire un massiccio palo con la punta rinforzata di ferro, ricavato dalla trave di sostegno della rimessa. Sospinto da braccia muscolose, assecondate da furia sanguinaria, il palo cominciò a tempestare di colpi la porta. Il massiccio battente gemette e vacillò, mentre dalla palizzata le frecce si riversavano come un torrente ininterrotto sui pirati. Qualcuno trovò il bersaglio, ma i fieri uomini del mare erano infiammati dal desiderio di combattere. Con grida rauche fecero oscillare avanti e indietro l'ariete, mentre i compagni li coprivano ai fianchi, fronteggiando l'indebolita scarica di colpi dei difensori e rispondendo senza dar loro respiro. Imprecando come un folle, il conte balzò giù dai bastioni e corse alla porta, la spada sguainata. Un gruppetto di armigeri disperati lo seguì, lancia in pugno. Tra un attimo la porta avrebbe ceduto ed essi avrebbero fatto da barriera con i loro stessi corpi. Poi un suono si levò sopra quel clamore. Una tromba dalla nave lanciò uno squillo stridente. Arrampicata sull'albero di maestra, una figura gesticolava freneticamente. I colpi dell'ariete cessarono e si udì il ruggito di strombanni. «Fermi, fermi, maledetti! Ascoltate!» Nel silenzio che seguì l'urlo del pirata, lo squillo della tromba fu chiaramente udibile insieme ad una voce, incomprensibile per gli uomini sulla palizzata, ma non per Strombanni, il quale urlò un ordine seguito da una bestemmia. L'ariete fu ritirato e il riparo mobile cominciò a retrocedere, rapido come era avanzato. I pirati che avevano risposto alle frecce dei difensori aiutarono i loro compagni feriti a rialzarsi e correre verso la spiaggia. «Guarda! Guarda, Lady Melissa, scappano tutti! Corrono alla spiaggia! Hanno abbandonato anche lo scudo! Saltano sulle scialuppe e remano verso la nave! Oh, signora, abbiamo vinto!» «Credo di no, Tina! Guarda!» Tirò di lato le cortine e si sporse dalla finestra. La sua giovane voce argentina superò le grida stupite dei difensori che si voltarono a guardare nella direzione da lei indicata. Un urlo rauco sfuggì da loro quando videro che un'altra nave veleggiava maestosa attorno al capo meridionale. Sull'albero di maestra svettava la bandiera reale di Zingara. I pirati di Strombanni sciamarono da tutti i lati sulla caracca e levarono l'ancora. Prima ancora che la nave reale arrivasse al centro della baia, la mano rossa era svanita oltre il capo settentrionale. Fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Pronto, ufficio soluzioni esagerate. Salve, sono Luca Soldoni, consulente finanziario. Chiamo perché devo fare i conti con le tasse. Il carico fiscale è esagerato. Alleggeriscilo con i buoni fasto ticket Restaurant Edred. Sono deducibili anche per una partita IVA come te. E scarichi tutto con una fattura unica. E poi sono spendibili in tutta Italia anche per la spesa e il food delivery. Vai su ticketrestaurant.it. Esageratamente Edred. 3. La nebbiolina azzurrognola si condensò lentamente in una mostruosa, tenebrosa figura, difficile da scorgere per i contorni non ben definiti, che invase la caverna, celando gli uomini seduti, silenziosi e immobili. Il cimero ebbe una fugace impressione di villosità, orecchie a punta e corna ravvicinate. Due enormi braccia si mossero come tentacoli verso la sua gola, ma il cimero, rapido come un fulmine, le colpì con l'ascia pitta. Ma era come tagliare il tronco di un albero d'ebano. Fu tale la potenza del colpo che il manico dell'ascia si ruppe e la testa di rame andò a sbattere contro una parete della caverna. Eppure pareva che la lama non avesse nemmeno scalfito la pelle del nemico. Ci vuole ben altro che una lama normale per ferire un demone. Poi le lunghe dita si strinsero attorno alla gola del cimero per spezzargli il collo come si spezza un giunco. Da quando aveva lottato a mani nude contro Baal Pteor nel tempio di Hanuman a Zambula, Conan non aveva più incontrato un avversario forte come quello. Quando sentì il contatto di quelle mani villose, il barbaro tese i possenti muscoli del collo massiccio e incassò la testa tra le spalle per offrire la minore presa possibile a quel nemico sovrannaturale. Lasciò cadere il coltello e il manico rotto dell'ascia, afferrò gli enormi polsi neri, fece schizzare le gambe in alto e in avanti, puntando i talloni nudi contro il petto del mostro e spingendo con tutta la sua forza. Con una poderosa spinta della schiena e delle gambe si liberò dalla stretta mortale e per reazione sfrecciò come un dardo nel tunnel dal quale era giunto. Atterrò di schiena sul pavimento di pietra, ma con una capriola fu subito in piedi, senza badare alle abrasioni, pronto a fuggire o a lottare, secondo ciò che richiedeva la situazione. Se ne stette immobile, i denti digrignati, gli occhi fissi sulla porta della caverna interna, ma nessuna mostruosa forma nera strisciò verso di lui. Quasi nello stesso istante in cui Conan si liberava dalla stretta, la forma aveva cominciato a dissolversi nella bruma azzurrina da cui si era consolidata, fino a scomparire del tutto. Il cimero si irrigidì, pronto a girare le spalle e schizzare fuori dal tunnel. Le paure superstiziose del suo animo barbarico gli vorticavano nella mente. Sebbene fosse coraggioso fino alla temerarietà di fronte a uomini e bestie, il sovrannaturale risvegliava in lui un panico paralizzante. Ecco dunque perché i Pitti se n'erano andati. Avrebbe dovuto aspettarsi un pericolo del genere. Ripensò a tutte le credenze sui demoni apprese durante l'adolescenza nella nebbiosa Cimmeria e durante i vagabondaggi che l'avevano portato più tardi in quasi tutti i paesi civili. Si diceva che fuoco e argento fossero mortali per i demoni, ma in quel momento non aveva né l'uno né l'altro. Tuttavia, gli spiriti che assumono forma materiale sono soggetti in qualche misura alle limitazioni della materia stessa. Quel mostro strisciante, per esempio, non avrebbe potuto correre più veloce di un animale della medesima forma e dimensione, e il cimero pensò che avrebbe potuto distanziarlo se ce ne fosse stato bisogno. Facendosi coraggio, l'uomo urlò con la millanteria di un ragazzo: «Ehi, laggiù, brutto muso! Come mai non esci?» Nessuna risposta. La bruma vorticò nella stanza, ma non assunse nessuna forma. Tastandosi il collo graffiato, il cimero ricordò una leggenda pitta. Un demone, mandato da uno stregone a uccidere strani uomini venuti dal mare, fu poi confinato in quella caverna dallo stesso stregone che l'aveva evocato da abissi tenebrosi, per paura che, acquisita forma mortale, si rivoltasse contro coloro che l'avevano strappato all'inferno natio e li distruggesse. Ancora una volta, il cimero rivolse la sua attenzione ai cofani che giacevano allineati contro le pareti del tunnel. Nel forte, intanto, il conte stava urlando: «Fuori, presto! Tirate dentro il riparo mobile prima che quegli stranieri sbarchino terra!» «Ma Strombanni è fuggito e quella è nave zingariana!» obiettò Galbro. «Fate come ordino io! I miei nemici non sono tutti stranieri! Fuori, cani, 30 di voi, e portate il riparo dentro la palizzata!» Prima che la nave zingariana calasse l'ancora, all'incirca nel punto in cui si era fermata la nave pirata, 30 uomini di Valenso avevano spinto il carro verso la porta, facendolo entrare a braccia, di sbieco, attraverso l'apertura. Dalla finestra della casa padronale, Tina chiese stupita: «Perché il conte non apre la porta e va loro incontro? Teme che l'uomo di cui ha paura sia sulla nave?» «Che cosa vuoi dire, Tina?» chiese Belesa a disagio. Sebbene non fosse uomo da fuggire davanti ad un nemico, il conte non aveva mai spiegato la ragione del suo esilio volontario e la convinzione di Tina era inquietante e misteriosa. Ella sembrò non aver udito la domanda. «Gli uomini sono rientrati nella palizzata! La porta è sbarrata e i soldati sono schierati sui bastioni! Se quella nave stava dando la caccia a Strombanni, perché hanno gettato l'ancora qui? Non è una galea da guerra, ma una caracca come l'altra! Guarda, una scialuppa si avvicina alla spiaggia! Vedo un uomo a prua, avvolto in un mantello scuro!» La barca toccò riva e un uomo ne discese, camminando a passo svelto sulla sabbia, seguito da altri tre. Era alto e muscoloso, vestito di seta nera e di acciaio scintillante. «Halt!» ruggì il conte. «Voglio parlare con il vostro capo, da solo!» Lo sconosciuto si tolse l'elmo e fece un profondo inchino. I suoi compagni si fermarono accanto a lui, stringendosi nei mantelli. Alle loro spalle i marinai si erano appoggiati ai remi e osservavano la bandiera che sventolava sopra la palizzata. L'uomo si avvicinò a portata di voce e disse: «Due gentiluomini non dovrebbero diffidare l'uno dell'altro su questi mari desolati!» Valenzo lo fissò sospettoso. Lo straniero era alto e bruno, con un volto scavato e rapace e due sottili baffetti neri. Un collare di pizzo gli cingeva la gola e altri due ornavano i polsi della veste. «Ti riconosco! Tu sei Zarono il Nero, il bucaniere!» Di nuovo lo straniero si inchinò con gesto elegante a quello che aveva detto Valenzo. «E nessuno potrebbe fare a meno di riconoscere il rosso falcone dei Corzetta! Sembra che su questa costa si siano dati appuntamento tutti i furfanti dei mari meridionali!» brontolò Valenzo. «Che cosa vuoi, Zarono?» «Andiamo, andiamo, signore! Non è questo il benvenuto da dare a un uomo che ti ha appena fatto un favore? Non era quel cane argosiano di Strombanni che batteva la tua porta? E non se l'è forse svignata quando la mia nave ha doppiato il capo?» «Sì, ma c'è poco da scegliere tra un pirata e un rinnegato!» Zarono rise senza risentimento e si arricciò i mustacchi. «Sei schietto, milord! Ma io voglio solo il permesso di calare l'ancora nella baia, perché i miei uomini possano cercare carne e acqua nei boschi, e forse io stesso possa bere un bicchiere di vino alla tua mensa!» «Non vedo come posso impedirtelo!» brontolò Valenzo. «Ma mettiti bene in testa questo, Zarono! Nessuno dei tuoi uomini dovrà entrare dentro la palizzata! Se uno si avvicina a meno di 30 passi, si troverà una freccia nello stomaco! E ti proibisco di toccare gli orti e il bestiame nel recinto! Ti darò un manzo se ti serve carne fresca, ma non di più! E nel caso ti sia messo in testa altre idee, ti avverto che possiamo difendere il forte dai tuoi banditi!» «Non lo difendevi mica tanto bene da Strombanni!» fece notare il bucaniere con un sorriso ironico. «Non troverai legname per costruire un altro riparo mobile questa volta, a meno di abbattere alberi o fare a pezzi la tua stessa nave! E i tuoi uomini non sono arcieri baracani! Valgono quanto i miei! Inoltre, quel po' di bottino che potreste trovare qui non varrebbe lo sforzo!» «E chi ha parlato di bottino e di guerra? No, no, i miei uomini vogliono semplicemente sgranchirsi le gambe a terra e mangiare cibo fresco. Sono stufi di masticare carne di porco salata. Possono scendere a riva? Ti garantisco che si comporteranno bene!» Valenzo diede a malincuore il suo permesso. Zarono si inchinò con espressione leggermente ironica e si allontanò a passo sicuro e misurato, come se stesse camminando sul pavimento di cristallo levigato della corte reale di Cordava, dove, per la verità, a meno che le voci non fossero false, era stato un tempo una figura familiare. «Gli uomini restino sulla palizzata! Non mi fido di quel porco rinnegato! Il fatto che abbia scacciato Strombanni dalla nostra porta non è una garanzia che anche lui non cerchi di tagliarci la gola!» Galbro annuì. Conosceva l'inimicizia esistente tra i pirati e i bucanieri zingariani. I pirati erano quasi tutti marinai argosiani fuori legge. All'antica faida esistente tra Argos e Zingara si aggiungeva, nel caso dei bucanieri, la rivalità tra opposti interessi. Entrambi predavano navi e città costiere e si depredavano l'un l'altro con altrettanta rapacità. Nessuno osò allontanarsi dalla palizzata mentre i bucanieri scendevano a riva. Uomini dal viso bruno, vestiti di seta sfolgorante e di lustre corazze d'acciaio, con fasce attorno alla fronte e orecchini d'oro. si accamparono sulla spiaggia 160 e passa uomini, e Valenso notò che Zarono aveva piazzato sentinelle a tutte e due le estremità della baia. Non toccarono gli orti e il manzo scelto da Valenso fu spinto fuori dal recinto e macellato. Furono accesi dei fuochi e un barile di birra scura fu portato a terra e aperto. Altri barilotti furono riempiti con l'acqua della sorgente che zampillava poco lontano dal forte, e alcuni uomini armati di archi mossero verso la foresta. Vedendoli, Valenso non poté trattenersi dal gridare un avvertimento a Zarono che passeggiava avanti e indietro per l'accampamento. «Non mandare, Zarono, i tuoi uomini nella foresta! Prendi un altro manzo se ti manca la carne! Se gli uomini si avventurano nella foresta, possono cadere in mano ai Pitti! Intere tribù di quei selvaggi dipinti vivono dentro di essa! Abbiamo respinto un loro attacco subito dopo sbarcati, e da allora 6 dei miei uomini sono stati uccisi nella foresta, in varie occasioni. Ora siamo in pace, ma la pace è appesa ad un filo. Non rischiare di provocarli!» Zarono lanciò un'occhiata stupita verso i boschi, come se si aspettasse di vedervi acquattata un'orda di selvaggi. Poi fece un inchino col capo e disse: «Ti ringrazio dell'avvertimento, milord!» Urlò ai suoi uomini di tornare indietro, con una voce rauca che contrastava stranamente il tono cortese usato per rivolgersi al conte. Se lo sguardo di Zarono avesse potuto penetrare quella barriera verdeggiante, si sarebbe ben più preoccupato. Avrebbe visto la sinistra figura che stava in agguato, osservando gli stranieri con impenetrabili occhi neri. Un guerriero dipinto in maniera terrificante, vestito solo di una fascia di pelle di daino attorno ai fianchi, con una penna di bucero inclinata sull'orecchio sinistro. Giunse la sera. Una lieve cortina grigia si era levata dal mare e offuscava il cielo. Il sole tramontò in un orizzonte purpureo, tingendo le onde di rosso. La nebbia si sollevò dal mare e lambì i margini della foresta, circondando di bioccoli fumosi la palizzata, e le canzoni dei bucanieri sembrarono perdersi in lontananza. I marinai avevano portato a terra vecchie vele di tela, con cui si erano fatti dei ripari lungo la riva, dove il manzo arrostiva sul fuoco e la birra, concessa dal capitano, veniva parsimoniosamente distribuita. La grande porta della palizzata era chiusa e sbarrata. Alcuni soldati si muovevano lungo i bastioni, picca in spalla, con gli elmi coperti di goccioline di umidità. Lanciavano occhiate preoccupate ai fuochi sulla spiaggia e osservavano con attenzione ancora maggiore la foresta, trasformata dalla nebbia in un'indistinta linea oscura. L'agglomerato pareva ora privo di vita, uno spiazzo buio e vuoto. La luce delle candele filtrava debolmente dalle feritoie delle capanne e usciva a fiotti dalle finestre della casa padronale. La notte era silenziosa, fatta eccezione per il passo delle sentinelle, lo sgocciolio dell'acqua della gronde e il canto lontano dei bucanieri. Qualche debole eco del canto penetrava nella grande sala della casa, dove Valenso e il suo indesiderato ospite sedevano a tavola bevendo vino. «I tuoi uomini fanno festa, Zarono!» «Sono felici di sentire di nuovo la sabbia sotto i piedi. È stato un viaggio faticoso, sì, una caccia lunga e difficile.» Sollevò con galanteria la coppa verso la ragazza taciturna che sedeva alla destra del suo ospite e bevve cerimoniosamente un sorso. Soldati con picca ed elmo e servi in abiti di raso erano allineati impassibili lungo le pareti. La casa padronale di Valenso in quella terra selvaggia era un pallido riflesso della corte che aveva avuto a Cordava. Il castello, come si ostinava a chiamarlo il conte, era una meraviglia per quel luogo remoto. Un centinaio di uomini avevano lavorato notte e giorno per mesi interi per costruirlo. Mentre le facciate esterne di tronchi erano prive di ornamenti, l'interno era quanto più possibile una copia del castello dei Corzetta. I tronchi che formavano le pareti della sala erano nascosti da pesanti arazzi di seta in tessuta d'oro. Le travi della navata maggiore che formavano l'alto soffitto erano dipinte e tirate a lucido. Il pavimento era coperto da ricchi tappeti. L'ampia scala che portava dal salone ai piani superiori era anch'essa ricoperta di tappeti e la massiccia balaustra era stata un tempo la murata di un galeone. Il fuoco acceso nell'ampio camino di pietra disperdeva l'umidità della notte. Al centro della grande tavola di mogano era posato un massiccio candelabro d'argento e la fiamma delle candele illuminava il salone proiettando lunghe ombre sulla scala. Il conte Valenso sedeva a capotavola di fronte al piccolo gruppo formato da suo nipote, il suo ospite pirata, Galbro e il capitano delle guardie. L'esiguità della compagnia faceva risaltare ancora di più le dimensioni dell'ampia tavola, alla quale avrebbero potuto sedersi comodamente 50 persone. «Stavi inseguendo Strombanni, Zarono? Come mai l'hai spinto così lontano?» «Inseguivo Strombanni, sì, ma lui non stava fuggendo da me. Strombanni non è un uomo che fugga davanti a chi che sia. No, è venuto qui in cerca di qualcosa. Sì, qualcosa che desidero anch'io.» «Che cosa in questa desolata regione può tentare un pirata o un bucaniere?» mormorò Valenso, fissando il contenuto scintillante della sua coppa. «Che cosa può tentare invece allora un conte di Zingara?» replicò pronto Zarono con una luce avida negli occhi. «La corruzione di una corte reale può stancare un uomo d'onore. I Corzetta hanno sopportato tranquillamente per parecchie generazioni quella corruzione.» «Milord, consentimi una curiosità. Perché hai venduto le tue terre, hai caricato sul galeone tutti gli arredi del tuo castello e sei salpato di nascosto dal reggente e dai nobili di Zingara? E perché ti sei stabilito qui, quando la tua spada e la tua fama ti avrebbero permesso di farti una posizione in qualsiasi terra civile?» Valenso giocherellò con il medaglione appeso alla catena d'oro che portava al collo. «Il motivo per cui ho lasciato Zingara è affar mio, ma è stato un caso a portarmi qui. Quando approdammo su questa spiaggia, feci sbarcare gli uomini e scaricare la maggior parte degli arredi, con l'intenzione di costruirmi un'abitazione temporanea. Ma la nave, ancorata nella baia, fu spinta contro gli scogli dal capo settentrionale e distrutta da un improvviso uragano proveniente da occidente. Uragani come quello sono piuttosto frequenti in certi periodi dell'anno. E dopo non c'era altro da fare che restare qui e cercare di viverci il meglio possibile.» «Allora ritorneresti alla civiltà, milord, se ne avessi l'occasione.» «Non a Cordava, ma forse in qualche regione più lontana, come la Vendia o anche il Kitai.» «Non trova noiosa l'esistenza qui, milady?» chiese Zarono, indirizzandosi per la prima volta direttamente a Belesa. Il desiderio di vedere un volto nuovo e di udire una voce diversa aveva fatto scendere la ragazza nella grande sala quella sera, ma ora avrebbe voluto trovarsi ancora in camera sua con Tina. Non c'era possibilità di sbagliarsi sul significato dell'occhiata che Zarono le aveva rivolto. Il tono galante e formale, l'espressione del viso contenuta e rispettosa, erano solo una maschera che lasciava intravedere il carattere violento e feroce dell'uomo. Il bucaniere non poteva nascondere il desiderio ardente che gli accendeva lo sguardo quando si rivolgeva a quell'aristocratica giovane bellezza, vestita di un abito di raso profondamente scollato, stretto in vita da una cintura tempestata di pietre preziose. «È un pochino diverso qui», rispose Belesa a bassa voce. «Milord, se tu avessi una nave, abbandoneresti questi luoghi?» «Forse.» «Io ho una nave. Se riusciamo a raggiungere un accordo...» «Che genere di accordo?» Valenso sollevò il capo, fissando con sospetto il bucaniere. «Parti uguali», disse Zarono, posando la mano aperta sul tavolo, con le dita distese come zampe di un ragno gigantesco. La mano tremava per la tensione nervosa e gli occhi del bucaniere brillavano di una nuova luce. «Parti uguali di che cosa, Zarono? L'oro che portai con me calò a picco con la nave e, a differenza dei legni spezzati, non è stato gettato a riva.» «Non quello, milord. Avanti, siamo franchi. Vuoi farmi credere che è stato il caso a farti sbaccare proprio in questo posto particolare, con migliaia di miglia di costa tra cui scegliere?» «Non ho bisogno di farti credere nulla. Il capitano della mia nave era Zingelito, un ex bucaniere. Conosceva questa costa e mi persuase a sbarcare qui, parlandomi di un motivo che più tardi mi avrebbe rivelato. Ma quel motivo non lo seppi mai, perché il giorno dopo lo sbarco egli scomparve nella foresta e il suo corpo privo di testa fu trovato più tardi da un gruppetto di cacciatori. Ovviamente era caduto in un'imboscata ed era stato ucciso dai Pitti.» Zarono fissò Valenso per qualche secondo. «Per tutti gli abissi, milord, ti credo. Un Corzetta, oltre a tutto il resto, non è abile a raccontare menzogne. E io voglio farti una proposta. Ammetto che quando calai l'ancora in questa baia avevo altri piani in mente. Supponendo che ti fossi già impadronito del tesoro, intendevo prendere il forte con l'astuzia e tagliarti la gola. Ma le circostanze mi spingono a cambiare il piano.» Lanciò un'occhiata a Belesa, la quale arrossì e sollevò indignata la testa. Poi continuò: Ho una nave e posso portarti lontano da qui con la tua famiglia e i servi che tu sceglierai. Il resto degli uomini, beh, si arrangerà. I soldati e i servi allineati contro la parete si scambiarono a disagio qualche occhiata di sbieco. Zarono proseguì, troppo cinico e brutale per nascondere le sue intenzioni. Ma prima dovrai aiutarmi, milord, a impadronirmi del tesoro per il quale ho percorso un migliaio di miglia. Quale tesoro in nome di Mitra? Anche tu straparli come quel cane di Strombanni? Hai mai sentito, milord, parlare di Tranicos il Sanguinario, il grande pirata baracano? E chi non lo conosce? Fu lui a devastare il castello del principe Totmecri in esilio dalla Stigia, a passare la sua gente a fil di spada e a rubare il tesoro che il principe aveva portato con sé fuggendo da Kemi. Sì, e la storia di quel tesoro ha messo in agitazione gli uomini della confraternita scarlatta come avvoltoi attorno ad una carogna. Pirati, bucanieri e persino feroci corsari neri del meridione, tutti quanti! E temendo un tradimento dai suoi capitani, Tranicos fuggì a settentrione con una sola nave e non se ne seppe più nulla. Questo è successo quasi 100 anni fa. Ma la leggenda del tesoro racconta che un uomo sopravvisse a quell'ultimo viaggio, tornò alle isole Baraka e fu catturato da una galea da guerra zingariana. Prima di essere impiccato raccontò la sua storia e disegnò con il suo stesso sangue una mappa su pergamena, riuscendo in qualche modo a nasconderla ai suoi catturatori. Ed ecco il racconto che fece. Tranicos salpò lontano dalle rotte di navigazione e arrivò in una baia su una costa desolata. Là calò l'ancora, sbarcando a riva con il tesoro e 11 fidati capitani che lo avevano accompagnato. Seguendo i suoi ordini, la nave se ne andò e ritornò dopo una settimana per prelevare l'ammiraglio e gli 11 capitani. Nel frattempo Tranicos contava di nascondere il tesoro da qualche parte nelle vicinanze della baia. La nave tornò il giorno convenuto, ma non trovò traccia di Tranicos e dei suoi 11 capitani, fatta eccezione per il rifugio di fortuna costruito sulla spiaggia. Il rifugio era stato distrutto e c'erano orme di piedi nudi tutt'attorno, ma nessun segno di vita. Non c'era traccia del tesoro, né alcuna indicazione del suo nascondiglio. I pirati si addentrarono nella foresta in cerca del loro capo. Poiché c'era con loro un bossoniano, che conosceva i boschi ed era abile nello scoprire le tracce, essi seguirono la pista degli scomparsi attraverso vecchi sentieri che si inoltravano alcune miglia a oriente della spiaggia. Stanchi di camminare e non riuscendo a ritrovare Tranicos, fecero salire uno di loro su un albero. E questi disse che non lontano da dove si trovavano aveva scorto una grande rupe scoscesa a forma di cupola che emergeva come una torre dalla foresta. Ripresero allora il cammino, ma furono assaliti da un'orda di pitti e ricacciati indietro alla nave. Non potendo fare altro, levarono l'ancora e salparono. Prima di raggiungere le isole Baraka, però, una terribile bufera distrusse la nave e solo quell'uomo sopravvisse. Questo è il racconto del tesoro di Tranicos che gli uomini hanno cercato invano per quasi un secolo. Che la mappa esista è risaputo, ma il luogo dove esso è nascosto rimane un mistero. Io ho potuto dare una sola occhiata alla mappa. Fu a Messanzia, dove io, Strombanni, Zingelito e un nemediano che navigava con i baracani ci nascondavamo. Qualcuno fece cadere la lampada, qualcun altro gridò nel buio e quando facemmo di nuovo luce, il vecchio usuraio che possedeva la mappa era morto con un pugnale nel cuore. La mappa era sparita e la ronda si avvicinava con le lance pronte per scoprire la causa di quel trambusto. Ci separammo e ognuno se ne andò per la sua strada. Per anni da allora Strombanni ed io ci sorvegliammo a vicenda, ognuno supponendo che l'altro avesse la mappa. Beh, da quanto è successo, si è visto che nessuno dei due l'aveva, ma di recente mi è arrivata voce che Strombanni aveva fatto vela verso settentrione, e così l'ho seguito. Hai visto anche tu poi com'è finita la caccia? Riuscii solo a dare un'occhiata di sfuggita alla mappa posata sul tavolo del vecchio usuraio, ma non potei distinguere nulla. Il comportamento di Strombanni prova però che questa è la baia in cui Tranicos gettò l'ancora. Ritengo che abbiano nascosto il tesoro sopra o nei pressi di quella grande rupe rocciosa scorta dall'esploratore e che sulla strada del ritorno siano stati assaliti e uccisi dai pitti. Quei selvaggi non si sono impossessati del tesoro. Gente che ha mercanteggiato lungo questa costa non ha mai notato che le tribù costiere avessero ornamenti d'oro o rare gemme. E allora, milord, questa è la mia proposta. Uniamo le nostre forze! Strombanni si trova nelle vicinanze, pronto a colpire. È fuggito temendo di essere preso fra due fuochi, ma ritornerà. Se però ci alleiamo, ci farà un baffo. Possiamo allontanarci dal forte lasciando abbastanza uomini da difenderlo in caso d'attacco. Credo che il tesoro sia nascosto qui vicino. 12 uomini non potevano trasportarlo troppo lontano. Noi lo troveremo, lo caricheremo sulla mia nave e salperemo per qualche porto straniero dove potrà coprire il mio passato con l'oro. Sono stanco di questa vita, milord. Voglio tornare alla civiltà e vivere come un nobile in un castello tra ricchezze e servitori e una moglie di sangue nobile. Ebbene? Chiese il conte, guardandolo di sbieco con sospetto. E concedimi la mano di tua nipote, chiese brusco il bucaniere. Belesa lanciò un'esclamazione acuta e balzò in piedi. Valenzo si alzò anche lui livido in volto, le dita strette attorno alla coppa come se volesse scagliarla sul suo ospite. Zarono non fece alcun movimento, rimase seduto immobile con un braccio sul tavolo e le dita adunche come artigli. Gli occhi gli brillavano di passione e di minaccia. «Come osi!» proruppe Valenzo. «Dimentichi, milord, forse di essere decaduto dal tuo alto rango?» «Non siamo alla corte di Cordava, milord. Su questa costa desolata la nobiltà si misura con la forza degli uomini e delle armi, e qui io sono tuo pari. Stranieri abitano il castello dei Corzetta e la tua fortuna è in fondo al mare. Morirai qui, milord, in esilio, se io non ti concederò l'uso della mia nave. Non avrai motivo per rimpiangere l'unione delle nostre casate». Con un nome nuovo e una nuova fortuna, scoprirai che Zarono il Nero saprà farsi posto tra gli aristocratici del mondo e sarà un genero di cui nemmeno un Corzetta dovrà vergognarsi. Sei pazzo solo a pensarlo! Esclamò con violenza il conte. Non fermare l'emozione dello shopping. Fermati a MacArthur Glen, la Reggia Designer Outlet, e scopri i migliori brand con sconti fino al 70% tutto l'anno. Cosa aspetti? Le nostre 160 boutique sono a un passo da te. Vieni a trovarci. MacArthur Glen, Destination Joy. Scopri il nuovo store Rituals, un universo di bellezza e benessere per la cura della persona e della casa. Tu! Che succede? Infatti, un rumore di passi attutiti ne distrasse l'attenzione. Tina entrò correndo nella sala, esitò vedendo gli occhi infuriati del conte fissi su di lei, fece una profonda riverenza e girò attorno al tavolo per infilare la sua piccola mano fra quelle di Belesa. Ansimava leggermente, aveva le pantofoline bagnate e i capelli biondi incollati al capo. «Tina, dove sei stata? Pensavo che fossi nella tua camera già da molto tempo!» esclamò Belesa ansiosamente. «C'ero, ma avevo perduto la collana di corallo che mi avevi regalato!» Temevo che non mi avresti lasciato andare se te lo dicevo. La moglie di un soldato mi ha aiutato a uscire dalla palizzata e a rientrare. E ti prego, milady, non chiedermi il nome, perché ho promesso di non dirlo. Ho ritrovato la collana accanto alla pozza dove ho fatto il bagno questa mattina. Puniscimi se ho sbagliato. Tina! No che non ti punisco, ma non dovevi uscire dalla palizzata con i bucanieri accampati sulla spiaggia e la continua minaccia dei pitti. Ora andiamo nella tua stanza a cambiare gli abiti tutti bagnati. Gemette Belesa stringendo a sé la fanciulla. Sì, milady, ma prima devo raccontarti dell'uomo nero. Cosa? L'esclamazione di sorpresa proruppe dalle labbra di Valenzo. La coppa si infranse al suolo mentre si affrettava al tavolo con entrambe le mani. Se un fulmine l'avesse colpito, il suo contegno non avrebbe potuto essere più alterato. Il volto era diventato livido e gli occhi sembravano schizzare delle orbite. Che cosa hai detto? Che cosa hai detto, bambina? «Un uomo nero, milord!» balbettò mentre Belesa, Zarono e i servitori la fissavano stupiti. «Quando arrivai alla pozza per riprendermi la mia collana, lo vidi! C'era uno strano gemito nel vento e il mare si lamentava come se avesse paura. E poi arrivò lui! Arrivò dal mare in una strana barca circondata da un fuoco azzurrino, ma non vidi torce! Tirò la barca a riva vicino alla punta meridionale e si diresse verso la foresta come un gigante nella nebbia!» «Un uomo alto, grande, nero come un cuscita!» Valenzo vacillò come se avesse ricevuto un colpo mortale. Si strinse la gola, spezzando la catena d'oro nella sua violenza. Con occhi folli si chinò e strappò la bambina impaurita dalle braccia di Belesa. «Tu, piccola serpe, tu menti! Mi hai udito mormorare nel sonno e racconti questa bugia per tormentarmi! Dimmi che è una bugia, se non vuoi che ti strappi la pelle dalla schiena!» «Zio!» esclamò Belesa, stupita e indignata, cercando di liberare Tina dalla sua stretta. «Sei impazzito! Che cosa stai facendo, zio?» Con un gesto rabbioso, Valenso si liberò il braccio dalla mano della ragazza e la spinse contro Galbro, che la brancò con un'espressione lasciva a malapena dissimulata. «Pietà, milord! Io non ho mentito!» «Hai mentito! Gebellez!» ruggì Valenso. Senza battere ciglio, il servo afferrò la bambina tremante e con uno strattone le strappò la tunica. Poi se la mise sulle spalle, tenendola per le braccia e sollevandola di peso da terra. «Zio!» strillò Belesa, cercando invano di liberarsi dalla stretta lasciva di Galbro. «Sei pazzo! Non puoi, oh! Non puoi!» La voce le si spense in gola, vedendo che Valenso aveva afferrato uno scudiscio dall'impugnatura ingoiellata e l'aveva calato sul fragile corpo della bambina con una forza selvaggia che lasciò un segno sanguinante sulle piccole spalle nude. Belesa emise un gemito, soffrendo per le angosciose urla di Tina. Il mondo era improvvisamente impazzito. Come in un incubo, vedeva i visi disumani dei soldati e dei servi che, impassibili, non mostravano né pietà né comprensione. Il volto leggermente sogghignante di Zaroro faceva parte di quell'incubo. Nulla appariva reale al suo sguardo inorridito, tranne il corpo bianco e nudo di Tina, segnato di rosse sferzate dalle spalle alle ginocchia, e le grida acuta di dolore della bambina e il respiro ansimante di Valenso che abbatteva lo scudiscio, gridando con occhi da folle. «Tu menti! Tu menti, maledetta! Menti! Ammetti la tua colpa o ti scorticherò il tuo corpo cocciuto! Non può avermi seguito fin qui!» «Ah, ah, abbi pietà, milord!» gridava la bambina, torcendosi sulle spalle del servo, troppo impaurita e dolorante per pensare di salvarsi con una bugia. Goccioline di sangue scarlatto le colavano lungo i fianchi tremanti. «Non mento! Pietà! Pietà! Pazzo! Pazzo!» urlava Belesa. «Non vedi che dice la verità? Oh, sei una bestia! Bestia! Bestia!» Brandelli di ragione parvero tornare nella mente del conte Valenso di Corzetta. Lasciato cadere lo scudiscio, vacillò verso la tavola, afferrandosi a tentoni al bordo. Tremava come se avesse la febbre terzana. I capelli, bagnati di sudore, gli si erano incollati al capo e il sudore gli scorreva anche dal volto illividito, simile ad una maschera di terrore. Tina, che Gebellez aveva lasciato andare, scivolò sul pavimento in un mucchietto tremante. Belesa si strappò dalla stretta di Galbro e corse verso di lei. Prese tra le braccia la povera trovatella e scagliò un'occhiata terribile allo zio, riversandogli addosso tutta la sua ira. Ma lui non stava a guardarla. Sembrava aver dimenticato sia la nipote che la vittima. Incredula, lo udì dire al bucaniere: «Accetto la tua offerta, Zarono! Nel nome di Mitra, troviamo questo maledetto tesoro e andiamocene da questa costa dannata!» A queste parole, la rabbia furibonda della ragazza si raggelò. Senza una parola, sollevò fra le braccia la bambina singhiozzante e la portò verso la scala. Un'occhiata dietro di sé le mostrò Valenso rannicchiato contro il tavolo che beveva vino da una grande coppa tenuta con entrambe le mani, mentre Zarono torreggiava su di lui come un perfido uccello da preda, perplesso dalla piega presa dagli eventi, ma pronto a trarre vantaggio dal cambiamento sconvolgente che si era prodotto nel conte. Gli parlava con voce bassa e decisa, e Valenso annuiva in silenzio come uno che non presti neanche attenzione a ciò che gli si dice. Galbro se ne stava più indietro nell'ombra, strofinandosi il mento tra pollice e indice, e i servitori lungo la parete si scambiavano occhiate furtive, stupefatti per il cedimento del conte. Salita in camera sua, Belesa depose la bambina semisvenuta sul letto e si mise a lavare le ferite e a medicarle con unguenti. Tina la lasciò fare, abbandonandosi completamente alle mani della padrona, gemendo debolmente. Belesa si sentiva come se il mondo le fosse crollato addosso. Era esausta e inebetita e sconvolta per la scena brutale della quale era stata testimone. Paura e odio contro suo zio le pervadevano l'animo. Non lo aveva mai amato. Era duro, rapace, avido e sembrava incapace di affetto. Ma lo aveva considerato un uomo giusto e coraggioso. Un'ondata di disgusto adesso la pervase mentre ripensava a quegli occhi sbarrati e a quel volto esangue. Qualche terribile paura doveva aver provocato in lui la pazzia, e a causa di quella paura ora vendeva lei, sua nipote, a un infame fuorilegge. Che cosa c'era dietro quella follia? Chi era l'uomo nero che Tina aveva visto? La bambina mormorò nel delirio: «Non ho mentito, milady, Davvero no! C'era un uomo nero su una barca nera che bruciava come fuoco azzurro sull'acqua. Un uomo alto, scuro, quasi come un Kushita, avvolto in un mantello nero. Mi sono impaurita nel vederlo e il sangue mi si è gelato. Ha lasciato la barca sulla spiaggia ed è andato nella foresta. Perché il conte mi ha frustato solo perché l'ho visto? Zitta, Tina! Stai buona, il bruciore ti passerà presto. La porta si aprì alle sue spalle e lei si girò, afferrando un pugnale dall'elsa ingemmata. Il conte stava sulla soglia e la fanciulla provò un brivido nel guardarlo. Sembrava invecchiato, aveva il volto grigio e tirato e gli occhi la fissavano con uno sguardo che le risvegliò la paura in petto. Non si era mai sentita molto vicina a lui. Ora le sembrava che un abisso li separasse. Non era più suo zio l'uomo immobile sulla soglia, ma uno straniero venuto a minacciarla. Sollevò il pugnale. «Se la tocchi di nuovo, zio, giuro su Mitra che ti affondo questo pugnale nel petto!» Lui non le prestò la minima attenzione. «Ho posto delle sentinelle attorno al castello. Zarono farà entrare i suoi uomini domani. Non se ne andrà finché non avrà trovato il tesoro. Quando l'avrà trovato, salperemo immediatamente verso un porto che stabiliremo!» «E mi venderai a lui, in nome di Mitra!» Valenso la fissò con uno sguardo cupo dal quale era stata cancellata ogni considerazione che non riguardasse il suo interesse personale. La giovane si rannicchiò davanti a quello sguardo, vedendovi la folle crudeltà che si era impadronita di lui a causa di quella misteriosa paura. «Tu farai come voglio io!» le disse, e la sua voce era priva di umanità come lo stridio della selce sul ferro. Poi si voltò e lasciò la stanza. Accecata da un improvviso impeto d'orrore, Belesa cadde svenuta accanto al letto su cui giaceva la povera Tina. Quattro. Belesa non seppe mai quanto tempo fosse rimasta svenuta. Quando tornò alla realtà, sentì le braccia di Tina attorno a sé e i singhiozzi della bambina. Meccanicamente si alzò e se la strinse al petto. Gli occhi fissavano, senza vederla, la luce guizzante della candela. Il castello era silenzioso. Il canto dei bucanieri sulla spiaggia era cessato. In modo quasi impersonale, Belesa esaminò il proprio dramma. Valenso era impazzito. Il racconto del misterioso uomo nero gli aveva fatto perdere la ragione. Per sfuggire a quello sconosciuto, voleva abbandonare la colonia e scappare insieme a Zarono. E questo era chiaro. Altrettanto ovvio era il fatto che era pronto a sacrificare la nipote in cambio della possibilità di fuga. Nell'oscurità che le pervadeva l'animo, non vedeva alcun barlume di luce. I servi erano dei bruti ottusi e insensibili, e le loro donne stolide e indifferenti. Non avrebbero osato né desiderato aiutarla. La sua situazione era disperata. Tina sollevò il visetto rigato di lacrime come se ascoltasse suggerimenti di una voce interiore. Era quasi soprannaturale la sua capacità di comprendere i pensieri più intimi di Belesa e il riconoscimento della spinta inesorabile del fato e dell'unica possibilità che restava loro era una sua qualità. «Dobbiamo andarcene, milady! Zarono non ti avrà, andiamocene lontano nella foresta, continueremo finché non potremo più proseguire e allora ci fermeremo e moriremo insieme!» La tragica forza, che è l'ultimo rifugio dei deboli, pervase l'animo di Belesa. Era l'unica maniera di sfuggire alle ombre che si erano addensate su di lei fin dal giorno in cui era fuggita dalla zingara. «Ce ne andremo, bambina!» disse Belesa. Si alzò e stava cercando tentoni un mantello, quando un'esclamazione di Tina la spinse a voltarsi. La bambina era in piedi, l'indice premuto sulle labbra, gli occhi spalancati e lucidi di terrore. «Che succede, Tina?» L'espressione impaurita della bambina indusse Belesa a parlare in un sussurro, mentre una paura senza nome si impadroniva di lei. «C'è qualcuno nel corridoio!» mormorò Tina, stringendole freneticamente il braccio. «Si è fermato alla nostra porta, poi ha proseguito dall'altra parte verso la camera del conte!» «Il tuo udito è più acuto del mio, piccola, ma non c'è nulla di strano. Probabilmente era il conte stesso, oppure Galbro.» Si mosse verso la porta per aprirla, ma Tina le buttò le braccia al collo stringendola freneticamente e Belesa sentì il selvaggio battito del suo cuore. «No, no, milady, non aprire la porta! Ho paura! Non so come, ma sento che un essere malefico si aggira intorno a noi!» Impressionata, Belesa la accarezzò per rassicurarla e allungò la mano verso il disco metallico che celava lo spioncino posto al centro della porta. «Sta tornando indietro! Lo sento, padrona!» gemette Tina. Anche Belesa udì qualcosa. Un curioso passo furtivo che in un brivido di paura senza nome seppe non appartenere a nessuno che conoscesse. Non era nemmeno il passo di Zarono, né quello di un uomo che calzasse stivali. Era forse il bucaniere che a piedi nudi scivolava furtivo nel corridoio per uccidere l'ospite nel sonno? Si ricordò degli uomini di guardia ai piedi della scala. Se il bucaniere si fosse fermato nel castello per trascorrervi la notte, ci sarebbe stata una sentinella di guardia davanti alla porta della sua stanza. Ma chi allora, chi camminava nel corridoio? Nessun altro dormiva su quel piano oltre lei, Tina, il conte e Galbro. Con un rapido gesto spense la candela in modo che la luce non trapelasse dallo spioncino e spostò il disco di rame. Il corridoio, di solito illuminato da candele, era buio. Qualcuno vi si muoveva nell'oscurità più assoluta. Avvertì, più che vederla, una massa scura che passava oltre la sua porta, ma non poté distinguere nulla della figura oltre al fatto che sembrava umana. Fu pervasa da un'ondata gelida di terrore. Si rannicchiò, incapace persino di strillare. Non era un terrore come quello che ora le ispirava suo zio, né paura come quella che provava di fronte a Zarono o nei confronti della foresta silenziosa. Era un orrore cieco e irrazionale che le posava sul petto una mano di ghiaccio e le incollava la lingua al palato. La figura proseguì fino al pianerottolo, dove fu per un attimo illuminata dal debole chiarore che saliva dal basso. Era un uomo, ma un uomo come Belesa non ne aveva mai visti. La ragazza ebbe la fuggevole impressione di una testa rasata, con lineamenti aquilini e pelle bruna e lustra, più scura di quella abbronzata dei suoi compaesani. La testa sovrastava due spalle larghe e robuste, avvolte in un manto nero. In un attimo l'intruso era sparito. La giovane si rannicchiò lì nel buio, aspettando il grido d'allarme dei soldati di guardia nella grande sala alla vista dell'intruso. Ma il castello rimase silenzioso. Da qualche parte il vento gemeva straziante. E questo era tutto. Belesa, con le mani umide di sudore, tentò di riaccendere la candela. Era ancora sconvolta per l'orrore, anche se non riusciva a determinare cosa ci fosse in quella figura nera stagliata nel bagliore rossastro da destare nel suo animo tanta ripugnanza. Sapeva soltanto che quella visione l'aveva derubata di tutta la fermezza appena trovata. Adesso era demoralizzata e incapace di agire. La candela si accese, illuminando il pallido viso di Tina con un bagliore giallognolo. «Era l'uomo nero! Io lo so, padrona! Il sangue mi è diventato di ghiaccio, come quando l'ho veduto sulla spiaggia! Ci sono dei soldati di sotto, ma perché non l'hanno visto? Dobbiamo andare ad avvertire il conte?» Belesa scosse la testa. Non aveva nessuna voglia che si ripetesse la scena seguita al primo accenno di Tina all'uomo nero. E poi non osava avventurarsi in quel corridoio buio. «Non possiamo fuggire nella foresta! Ci sarà lui in agguato!» disse Tina rabbrividendo. Belesa non le chiese come facesse a sapere che l'essere sarebbe stato nella foresta. Era il logico nascondiglio per ogni essere malefico, uomo o demone. E sapeva che Tina aveva ragione. Adesso non potevano lasciare il forte. La sua determinazione, che non aveva vacillato la prospettiva di morte certa, veniva meno al pensiero di attraversare quei boschi paurosi dove si aggirava quell'essere sinistro e tenebroso. Si sedette, disperata, e affondò il volto tra le mani. Adesso Tina aveva preso sonno sul letto. Le lacrime brillavano ancora sulle sue lunghe ciglia. Il corpo dolorante continuava ad agitarsi inquieto in un dormiveglia senza riposo. Belesa vegliava. Verso l'alba, Belesa sentì che l'aria si era fatta soffocante. Udì un brontolio lontano di tuono dalla parte del mare. Spense la candela, ormai quasi del tutto consumata, e si avvicinò alla finestra, da dove poteva vedere l'oceano e una fascia di foreste dietro il forte. La nebbia era scomparsa e lungo l'orizzonte orientale una pallida striatura lasciava presagire l'alba. Ma sul mare aperto una massa oscura incombeva all'orizzonte, interrotta da sprazzi di luce e animata dal brontolio del tuono. Un rombo venne in risposta dalla foresta tenebrosa. Stupita, Belesa si voltò a fissare i boschi, simili a neri bastioni. Uno strano, ritmico pulsare gli giunse agli orecchi. Un'eco attutita che non era il rullare dei tamburi pitti. «Un tamburo!» singhiozzò Tina, aprendo e chiudendo spasmodicamente le dita nel sonno. «L'uomo nero batte sul tamburo nero nella foresta nera! Oh Mitra, salvaci!» Belesa rabbrividì. La cupa nuvola all'orizzonte occidentale si contorse e fremette, gonfiandosi e ingrandendosi. Belesa la fissò stupita, perché l'estate precedente non c'erano stati temporali su quella costa nel medesimo periodo dell'anno, e lei non aveva mai visto una nuvola simile a quella. Avanzava ribollendo sulla costa in una grande massa nera e tumultuosa, venata di lampi azzurrini, fremendo e ondeggiando sospinta dal vento. Il rombo dei tuoni faceva vibrare l'aria, e un altro suono si mescolava paurosamente all'eco del tuono, la voce del vento che ne precedeva veloce l'avanzata. L'orizzonte, nero come l'inchiostro, si contorceva convulsamente sotto le saette. Lontano, sul mare, Belesa scorgeva le onde increspate di bianco correre davanti al vento. Poteva udirne il muggito prolungato crescere di intensità mentre si avvicinavano alla riva. Eppure il vento non spazzava ancora la terra. L'aria era calda, immobile. Il contrasto dava una sensazione di irrealtà. Vento e tuoni e caos si precipitavano contro la costa. Qui invece solo un'immobilità soffocante. Da qualche parte al pianterreno un'imposta sbatté con violenza spezzando il silenzio carico di tensione e una voce di donna si levò acuta in un grido d'allarme. La maggior parte della gente del forte tuttavia sembrava ancora immersa nel sonno, ignara dell'approssimarsi dell'uragano. Belesa si accorse che il misterioso, monotono tamburo ancora batteva. Guardò verso la foresta tenebrosa e rabbrividì. Non riusciva a scorgere nulla, ma un'oscura intuizione la portò a immaginare una figura nera e odiosa accovacciata sotto i rami neri, intenta a battere un incantesimo innominabile su un tamburo di esotica fattura. Disperatamente cercò di scacciare quel pensiero macabro e guardò verso il mare, mentre un lampo di luce squarciava il cielo. Stagliati contro la luce, vide gli alberi della nave di Zarono. Vide le tende dei bucanieri sulla spiaggia, le creste sabbiose della punta meridionale e i dirupi rocciosi dalla punta settentrionale, illuminati come in pieno giorno. Il ruggito del vento divenne sempre più forte e adesso tutto il castello era sveglio. Un pesante rumore di passi risuonò sulle scale e Zarono gridò un ordine con una sfumatura di paura nella voce. Alcune porte sbatterono e Valenso rispose, gridando per farsi udire sopra il fragore degli elementi. «Perché non mi hai avvertito che arrivava un uragano da occidente? Se l'ancora non tiene!» gridò il bucaniere. «Non c'è mai stato un uragano da occidente in questo periodo dell'anno, Zarono! È opera di...» Le ultime parole si persero nella gola di Valenso, mentre correva come impazzito verso la scala Pioli che conduceva la torre di vedetta, seguito dal bucaniere che imprecava. Belesa si rannicchiò accanto alla finestra, stupita e assordata. Il vento divenne sempre più forte, fino a coprire ogni altro suono, tranne l'esasperante eco di un tamburo che ora risuonava come un disumano canto di trionfo. L'uragano ruggiva contro la spiaggia, spingendo davanti a sé una gigantesca cresta bianca spumeggiante. Poi, inferno e distruzione si scatenarono sulla costa. La pioggia precipitò con violenza torrenziale, spazzando la spiaggia con cieca furia. Il vento si avventò come un colpo di tuono, facendo tremare il forte. I frangenti fuggirono sulla sabbia, spegnendo i tizzoni dei fuochi accesi dai marinai. Alla luce dei fulmini, Belesa vide, attraverso la cortina di pioggia battente, le tende dei bucanieri fatte a brandelli e trascinate via. Vide gli uomini barcollare correndo verso il forte, quasi schiacciati a terra dalla furia delle raffiche. E stagliata contro il bagliore azzurrino, la nave di Zarono, strappata dagli ormeggi, scagliata di peso contro le rocce frastagliate che si protendevano a riceverla. Cinque. L'uragano si era ormai placato. L'alba si levò in un cielo azzurro e terso, lavato dalla pioggia. Gli uccelli multicolori proruppero in un coro di cinguettii dagli alberi, sulle cui foglie, vibranti nella brezza mattutina, goccioline d'acqua scintillavano come diamanti. Chino su un torrentello che serpeggiava fra le sabbie fino al mare, nascosto da una frangia di alberi e cespugli, un uomo si lavava il volto e le mani. Eseguì le abluzioni come tutti quelli della sua razza, sbuffando di piacere e mandando schizzi come un bufalo. Ma nel bel mezzo degli spruzzi alzò di scatto il capo, con i capelli fulvi gocciolanti e l'acqua che gli scorreva in rivoli lungo le spalle muscolose. Per un attimo restò immobile in ascolto, poi balzò in piedi rivolto all'entroterra, con la spada in pugno in un sol movimento, e si irrigidì restando a bocca aperta. Un uomo, persino più massiccio di lui, avanzava sulla sabbia senza tentare di nascondersi. Il pirata fissò con occhi spalancati i calzoni attillati di seta, gli stivali scampanati, la camicia dall'ampia fascia e il copricapo di un secolo prima. C'era una corta spada a lama larga nel pugno dello straniero e un proposito inequivocabile nel suo avvicinarsi. Il pirata impallidì riconoscendolo. «Tu!» esclamò incredulo. «Per Mitra, tu!» Una serie di imprecazioni gli uscì dalle labbra mentre sollevava la daga. Gli uccelli si alzarono dagli alberi in un ugolo variopinto, interrotti nel loro canto dal fragore dell'acciaio. Scintille azzurrine sprizzarono dallo scontro delle lame mentre la sabbia scricchiolava sotto gli stivali dei contendenti. Poi il cozzo dell'acciaio terminò con un rumore sordo e uno dei due uomini si piegò sulle ginocchia con un ansito soffocato. L'elsa gli sfuggì dalla mano inerte ed egli scivolò lungo disteso sulla sabbia arrossandola col suo sangue. Con un ultimo sforzo si frugò nella cintura, traendone qualcosa che tentò di portarsi alla bocca. Poi si irrigidì con uno spasimo e restò immobile. Il vincitore si chinò su di lui e senza alcuna pietà gli strappò dalle dita, che già si irrigidivano, l'oggetto che esse spiegazzavano in una stretta disperata. Zarone e Valenso si fermarono sulla spiaggia, osservando i relitti che i loro uomini raccoglievano: pezzi dell'alberatura, tronconi dell'albero maestro, fasciame spezzato. L'uragano aveva scagliato con tanta violenza la nave di Zarone contro la bassa scogliera che la maggior parte di quanto veniva recuperato poteva servire solo come legna d'ardere. Un pochino più indietro, Belesa, un braccio attorno alle spalle di Tina, ascoltava la loro conversazione. Era pallida e stanca, indifferente a qualsiasi cosa il destino tenesse in serbo per lei. Ascoltava quello che i due uomini dicevano, ma senza molta attenzione. Era schiacciata dalla sensazione di essere solo una pedina del gioco, quale che fosse la situazione, trascinata a rovinarsi la vita su quella costa desolata o di ritorno, in qualche modo in una delle terre civili. Zarone imprecava con violenza, ma Valenso sembrava meravigliato. «Questo non è il periodo dell'anno in cui ci sono uragani da occidente», mormorò il conte, fissando con occhi arrossati gli uomini che trascinavano i relitti sulla spiaggia. «Non è stato il caso a far scoppiare l'uragano per distruggere la nave sulla quale avevo intenzione di fuggire». «Fuggire? Sono preso in trappola come un topo, secondo i piani». «No, siamo tutti intrappolati come topi». «Non so di che cosa parli», rispose con rabbia Zarone, tirandosi i baffi con rabbia. «Non sono riuscito a capire il tuo modo di fare da quando quella mocciosa dai capelli di stoppa ti ha sconvolto col racconto di uomini neri usciti dal mare. Ma so, Valenso, che non passerò la vita su questa costa maledetta. 10 dei miei uomini sono andati all'inferno con la nave, ma me ne sono rimasti ancora 160. Tu ne hai 100. Nel forte ci sono gli attrezzi e la foresta è piena d'alberi. Costruiremo una nave. Metterò gli uomini ad abbattere alberi e appena avranno portato via quei derelitti». «Ci vorranno mesi, Zarone!» «C'è un modo migliore per passare il tempo? Siamo qui, Valenso, e a meno di costruire una nave non ce ne andremo mai. Dovremmo mettere su una specie di segheria. Non ho ancora incontrato un ostacolo che sia riuscito a fermarmi a lungo. Spero solo che l'uragano abbia fatto a pezzi quel cane argosiano di Strombanni. Durante la costruzione della nave potremo andare a caccia del tesoro di Tranikos». «Non riusciremo mai a finire la nave, Zarone!» Zarone gli rivolse uno sguardo infuriato. «Vuoi parlare chiaro? Chi è questo maledetto uomo nero?» «Maledetto davvero. Un'ombra del mio passato sanguinoso, sorto per seguitarmi fino all'inferno. Per causa sua sono fuggito dalla zingara, sperando di far perdere le mie tracce nel grande oceano. Ma dovevo immaginare che alla fine sarebbe riuscito a scovarmi. Se questo uomo è sceso a terra, sarà sicuramente nascosto nei boschi. Batteremo la foresta e lo staleremo. Più facile afferrare l'ombra che fugge davanti ad una nuvola che si nasconde dalla luna, brancolare nel buio per catturare l'aspide o inseguire la bruma che si innalza dalla palude a mezzanotte. Zarono gli lanciò un'occhiata incerta, chiedendosi se il conte non fosse impazzito. Chi è quest'uomo? Smettila di essere ambiguo, Valenso! L'ombra della mia folle crudeltà e delle mie ambizioni, un orrore venuto da ere lontane, non un uomo fatto di carne e ossa, ma uno... Nave in vista! Gridò l'uomo di vedetta sulla punta settentrionale. Zarono si voltò e la sua voce sferzò il vento. La riconosci? Sì, è la mano rossa. Zarono scoppiò in selvagge imprecazioni. Strombanni! I demoni si prendono cura dei loro simili! Come ha fatto a resistere all'uragano? La voce del bucaniere si tramutò in un urlo che fece tremare la sabbia. Tornate al forte, cani! Prima che la mano rossa, un po' malconcia nell'aspetto, doppiasse il capo, la spiaggia fu deserta e la palizzata irta di elmetti e di teste. I bucanieri accettarono l'alleanza con la pronta adattabilità degli avventurieri e i seguaci del conte con l'apatia dei servi. Zarono digrignò i denti quando una scialuppa si accostò velocemente alla riva e scorse a prua la testa fulva del rivale. La barca giunse a riva e Strombanni si avviò da solo verso il forte. Giunto a una certa distanza, si arrestò e lanciò un urlo rabbioso che l'aria tranquilla del mattino portò lontano. «Ehi là, del forte! Voglio parlamentare!» «E allora perché diavolo non lo fai?» disse con ira Zarono. «L'ultima volta che mi sono avvicinato con il segno di tregua mi sono beccato una freccia sul petto!» ruggì il pirata. «Te la sei voluta! Ti avevo avvisato chiaramente di andartene!» disse Valenso. «Beh, voglio la promessa che non capiterà una seconda volta!» «Hai la mia promessa!» gridò Zarono con un sorriso sardonico. «All'inferno la tua promessa, cane zingariano! Voglio la parola del conte Valenso!» Il conte aveva ancora un certo segno di dignità. C'era una sfumatura di autorità nella sua voce. «Vieni vicino! Ma tieni indietro i tuoi uomini, Strombanni! Nessuno ti scaglierà frecce contro!» «Mi basta! Quali che siano i peccati di un corzetta, ci si può fidare della sua parola!» E Strombanni si avvicinò al forte e si fermò alla porta, guardando con ironia il volto di Zarono rabbuiato dall'odio. «Ehi là, Zarono! Mi pare che tu abbia una nave in meno, eh? Da quando ci siamo visti l'ultima volta!» «Ma voi zingariani non siete mai stati marinai!» «E tu come hai fatto a salvare la nave, fognaiolo di Messanzia?» «È una piccola insenatura qualche miglio verso settentrione, protetta da un alto bastione di rocce che ha smorzato la violenza dell'uragano. Ho gettato l'ancora in quella cala. Le ancore hanno tenuto e io sono rimasto a galla!» Zarono lo guardò accigliato. Valenso restò in silenzio. Il conte non sapeva dell'esistenza di quella cala perché aveva esplorato poco il territorio. La paura dei pitti, la mancanza di curiosità e la necessità di spingere gli uomini al lavoro avevano trattenuto lui e la sua gente a breve distanza dal forte. «Sono venuto a fare uno scambio!» «Non abbiamo niente da scambiare con te, tranne colpi di spada!» brontolò Zarono. «Io la penso diversamente. Hai rivelato le tue intenzioni quando hai ammazzato Galacus, il mio secondo, e l'hai derubato. Fino a stamane avevo pensato che il tesoro di Tranikos fosse in mano a Valenso, ma se esso fosse stato effettivamente in mano di uno di voi due, tu non ti saresti preso la briga di seguirmi e uccidere il mio secondo per prendergli poi la mappa!» «La mappa?» esclamò Zarono irrigidendosi. «Oh, non fare l'ipocrita con me, Zarono! So che ce l'hai tu! I pitti non calzano stivali!» «Ma...» fece il conte perplesso, zittendosi subito a un gesto di Zarono. «E se anche avessimo la mappa, Strombanni, tu cosa ci offri in cambio?» «Fatemi entrare nel forte e ne parleremo!» Strombanni non allusa agli uomini schierati sulla palizzata, ma i suoi ascoltatori capirono. Strombanni possedeva una nave ed essa sarebbe stata inclusa sia nel patto sia nella battaglia. Ma chiunque ne fosse stato il capitano, la nave avrebbe potuto trasportare solo un certo numero di persone e alcune avrebbero dovuto rimanere a terra. Un'ondata di congetture preoccupate percorse gli uomini assiepati in silenzio sulla palizzata. «I tuoi uomini dovranno stare dove sono!» disse Zarono, indicando la scialuppa tirata secco sulla spiaggia e la nave ancorata nella baia. «Va bene, ma levatevi dalla testa di catturarmi e tenermi in ostaggio! Voglio la parola di Valenso, che potrò lasciare il forte dopo un'ora, vivo, stipulato o no l'accordo!» «Hai la mia parola, Strombanni», rispose il conte. «Va bene allora, aprite la porta e discutiamo!» La porta fu aperta e subito richiusa. I tre uomini sparirono dentro il castello. I due gruppi ripresero a sorvegliarsi in silenzio, gli uni sulla palizzata, gli altri accovacciati accanto alla scialuppa, separati da un'ampia distesa di sabbia. Oltre l'ampia striscia di mare azzurro dondolava la caracca e gli elmetti scintillavano lungo la murata. Rannicchiate sull'ampio scalone prospiciente la grande sala, Belesa e Tina ascoltavano, non viste, gli uomini che discutevano seduti attorno alla grande tavola: Valenso, Galbro, Zarono e Strombanni. Non c'era nessun altro nella stanza. Strombanni tracannò il vino e posò la coppa sul tavolo. La franchezza che i suoi modi schietti suggerivano era smentita dalla crudeltà e dal tradimento che gli lampeggiavano negli occhi. Ma il suo discorso fu abbastanza franco. «Noi tutti vogliamo il tesoro che il vecchio Tranikos nascose da qualche parte nelle vicinanze di questa baia, e ognuno di noi ha qualcosa che serve agli altri. Valenso ha i servi, scorte di cibo e una palizzata per proteggerci dai pitti. Tu, Zarono, hai la mia mappa, e io invece ho una nave». «Mi piacerebbe sapere una cosa, Strombanni. Visto che in tutti questi anni avevi tu la mappa, perché non sei venuto prima a prenderti il tesoro?» chiese Zarono. «La mappa non l'avevo io. Fu quel cane di Zingalito a pugnalare nel buio il vecchio usuraio e a rubargliela. Ma lui non aveva né la nave né l'equipaggio e gli occorse più di un anno per trovarli. Quando venne a cercare il tesoro, i pitti gli impedirono di scendere a terra e gli uomini si ammutinarono e lo costrinsero a tornare nella zingara. Un marinaio gli rubò la mappa e solo di recente l'ha venduta a me». «Ecco perché Zingalito conosceva questa baia», mormorò il conte Valenso. «È stato quel cane a condurti qui, conte! Dovevo immaginarlo! E dov'è ora?» «Senza dubbio all'inferno, visto che era un bucaniere. I pitti l'hanno ucciso mentre era nella foresta in cerca del tesoro!» «Ben gli sta!» esclamò Strombanni con calore. «Non so come tu sia venuto a conoscenza del fatto che il mio secondo aveva la mappa! Gliel'avevo affidata perché io mi fidavo di lui, e l'equipaggio si fidava più di lui che di me! Ma stamattina si è addentrato nella foresta e gli uomini che erano con lui l'hanno perso di vista. L'abbiamo ritrovato morto vicino alla spiaggia e la mappa era sparita. L'equipaggio era pronto ad accusarmi di averlo assassinato, ma sono riuscito a dimostrare a quegli stolti che le orme lasciate dall'assassino non erano le mie e non potevano essere di nessuno dei marinai, perché i miei uomini non portano stivali di quel tipo e i pitti non ne portano affatto. Doveva essere stato per forza uno zingariano. Bene. Voi avete la mappa, ma non il tesoro. Se aveste il tesoro, non mi avreste fatto entrare nella palizzata. Io vi tengo bloccati nel forte. Voi non potete uscire per andare in cerca del tesoro, e anche se riusciste a impadronirvene, non avete una nave per portarlo via. Quindi, signori, ecco la mia proposta. Zarono mi darà la mappa, e tu, Valenso, carne fresca e provviste. I miei uomini rischiano di prendersi lo scorbuto dopo un viaggio così lungo. In cambio io sbarcherò con voi tre, Lady Belesa e la ragazza, nei pressi di qualche porto zingariano, o se Zarono preferisce di qualche covo di bucanieri, perché senza dubbio un cappio lo aspetta a Zingara. E per suggellare il patto darò anche ad ognuno di voi una bella fetta del tesoro. Zarono si tormentò pensieroso i baffi. Sapeva che Strombanni non avrebbe mai mantenuto un patto del genere, né lui stesso aveva la minima intenzione di accettare la sua proposta. Rifiutare seccamente, tuttavia, avrebbe forzato lo scontro. Fece lavorare furiosamente il cervello, cercando un piano che potesse mettere nel sacco il pirata. Desiderava la nave di Strombanni almeno quanto il tesoro. «Che cosa potrebbe impedirci di farti prigioniero, costringendo i tuoi uomini a scambiare la nave con la tua vita?» «Mi credi scemo?» I miei uomini hanno l'ordine di salpare le ancore e allontanarsi da questo posto se non uscirò di qui entro un'ora e se aspettano o sospettano un tradimento. Non ti darebbero la nave nemmeno se mi scorticassi vivo sulla spiaggia. Inoltre io ho la parola del conte Valenzo. Le mie promesse non sono strambe. Basta con le minacce, Zarono. Zarono non rispose. La sua mente era tutta presa dal problema di impadronirsi della nave di Strombanni e dalla preoccupazione di continuare il colloquio senza tradire il fatto che la mappa non era in mani sue. Si chiese chi, in nome di Mitra, avesse quella mappa. «I miei uomini verranno con me sulla tua nave quando ce ne andremo. Non posso abbandonare i miei fedeli seguaci». Strombanni fece un sogghigno. «Perché non mi chiedi che ti presti la sciabola per tagliarmi la gola? Abbandonare i tuoi fedeli seguaci, bah! Abbandoneresti al diavolo tuo fratello se ci fosse qualcosa da guadagnare. No, Valenzo, non porterai a bordo abbastanza uomini da avere una possibilità di ammutinarti e impadronirti della mia nave». «Dacci un giorno di tempo per pensarci», chiese Zarono cercando di guadagnare tempo. Il pugno di Strombanni calò rumorosamente sulla tavola, facendo danzare il vino nelle coppe. «No, per Mitra! Dammi la risposta subito, Zarono!» Zarono balzò in piedi e la collera ebbe la meglio sulla prudenza. «Cane d'un baraccano! Ti darò la risposta! Nelle budella!» Gettò il mantello di lato e strinse l'elsa della spada. Strombanni si alzò con un ruggito, mandando a sbattere la sedia sul pavimento. Valenzo si frappose tra i due che si fronteggiavano con le mascelle serrate, le spade mezzo sguainate e i lineamenti contorti dalla collera. «Signori, smettetela! Zarono! Quest'uomo ha la mia parola! I cani rognosi non meritano la tua parola, Valenzo!» «Scostati, milord! Mi hai dato la parola che non sarei stato tradito, ma un duello ad armi pari tra questo cane e me non sarà considerato violazione della promessa!» «Ben detto, Strom!» disse una voce profonda e forte alle loro spalle, piena di sardonico divertimento. Tutti si voltarono sorpresi. Belesa sulla scala sobbalzò con un'involontaria esclamazione. Un uomo uscì da dietro i tendaggi che mascheravano la porta di una stanza e si avvicinò al tavolo senza fretta né esitazione. Immediatamente il gruppo fu dominato dalla sua presenza e tutti avvertirono il sottile cambiamento che si era prodotto nella situazione. Lo straniero era più alto e massiccio dei due pirati, ma nonostante il fisico si muoveva con la leggerezza di una pantera. Portava un paio di stivali alti scampanati e calzoni attillati di seta bianca. Sotto l'ampio mantello azzurro si intravedeva una camicia di seta bianca a collo aperto e la fascia scarlatta che gli cingeva la vita. Il mantello, decorato con bottoni d'argento a forma di ghianda, aveva i risvolti delle maniche e le patte delle tasche ricamati in oro e il collare di seta. Un cappello laccato completava quell'abbigliamento fuori moda da almeno un secolo. Dal fianco dell'uomo pendeva una corta sciabola. «Conan!» esclamarono insieme i due pirati, mentre Valenzo e Galbro trattenevano il respiro nell'udire quel nome. «E chi altri?» Il gigante si avvicinò al tavolo, ridendo beffardo al loro stupore. «Cosa ci fai qui? Come hai fatto a entrare senza essere visto?» «Ho scalato la palizzata dal lato orientale mentre voi sciocchi discutevate accanto alla porta», rispose Conan parlando lo zingariano con accento barbarico. «Tutti nel forte guardavano dalla parte opposta. Sono penetrato nel castello proprio mentre Strombanni entrava dalla palizzata. Da allora sono rimasto in quella stanza ad ascoltare». «Credevo che tu fossi morto», disse Zarono lentamente. «Lo scafo fracassato della tua nave fu avvistato 3 anni fa al largo di una costa rocciosa e da allora non si è più sentito parlare di te sull'oceano». «Non sono annegato con l'equipaggio. Ci vuole un oceano ben più grande di questo per farmi annegare. Ho nuotato fino a riva e per un po' ho fatto il mercenario per i regni neri. Poi ho militato nell'esercito del re di Aquilonia. Si potrebbe quasi dire che sono diventato... rispettabile. O almeno che lo ero diventato, fino ad una recente divergenza di opinioni fra me e quel somaro di Numedide. E ora, signori, agli affari! O voi, miei compagni di rapina!» Sul pianerottolo, Tina si stringeva eccitata e Belesa osservava con occhi spalancati la scena. «Conan! Milady, quello è Conan! Guardalo, guardalo!» Belesa lo guardava come se vedesse in carne ed ossa un personaggio leggendario. Chi fra la gente di mare non aveva udito parlare delle feroci e sanguinarie gesta di Conan, il selvaggio scorridore, un tempo capitano dei pirati baracani e uno dei più grandi flagelli dei mari? Un'infinità di ballate celebravano le sue imprese audaci e feroci. Quell'uomo non poteva essere ignorato. Era entrato irresistibilmente in scena per costituire un altro elemento dominante dell'ingarbugliato intreccio. Belesa, impaurita ma ammaliata, si chiedeva con curiosità di donna quale sarebbe stato il comportamento di Conan nei suoi confronti. La brutale indifferenza di Strombanni o il violento desiderio di Zarono? Balenzo si riprese dalla sorpresa di trovarsi uno straniero nel salone della sua stessa casa. Sapeva che Conan era un cimmero, nato e cresciuto tra le terre desolate del settentrione e quindi libero dai limiti fisici degli uomini civili. Non era poi così strano che fosse riuscito a entrare nel forte senza essere visto, ma Valenso rabbrividì al pensiero che altri barbari potessero imitarli, gli scuri, silenziosi pitti, per esempio. «E cosa ci fai qui? Sei venuto dal mare?» chiese Valenso. «Sono venuto dalla foresta». «Hai vissuto insieme ai pitti?» «Che domanda è? Persino uno zingariano potrebbe sapere che non c'è mai stata pace fra pitti e cimmeri, e mai ci sarà! La faida che ci divide è più antica del mondo. Se tu avessi detto queste parole a qualcuno dei miei fratelli più selvaggi, ti saresti ritrovato con la testa spaccata in due! Ma io ho vissuto in mezzo a voi uomini civili da molto tempo, e quindi scuso la tua ignoranza e la tua mancanza della più comune cortesia. La villania di chiedere gli affari suoi all'uomo appena giunto alla tua casa da una foresta sconfinata. Ah! Ma non importa. Signori, da quel che ho udito, mi pare di capire che c'è qualche divergenza in merito a una mappa. Non sono affari tuoi, Conan! Sarà mica questa? Con una smorfia maligna, Conan tirò fuori dalla tasca un oggetto appallottolato, un pezzo di pergamena segnata di linee rosse. Strombanni sussultò violentemente impallidendo. «La mia mappa! Dove l'hai presa?» «Al tuo secondo Galacus, quando l'ho ammazzato!» «Tu, cane! Non hai mai avuto la mappa, Zarono! Hai mentito!» «Non ho mai detto di averla, Strombanni! Sei tu che l'hai pensato! Non essere sciocco! Conan è solo! Se avesse avuto degli uomini con sé, ci avrebbe già tagliato la gola! Gli prenderemo la mappa!» «No, signori, voi non la toccherete mai!» I due uomini balzarono verso di lui imprecando, ma il cimmero indietreggiò, appallottolò la pergamena e la gettò tra le braccia ardenti del caminetto. Con un ruggito inconcludente, Strombanni si precipitò verso il fuoco, ma trovò ad aspettarlo una sventola che lo colse dietro l'orecchio e lo buttò a terra semisvenuto. Zarono sguainò la spada, ma prima che potesse usarla, fu disarmato dalla corta sciabola di Conan. Zarono barcollò e si appoggiò al tavolo, con una luce infernale nello sguardo. Strombanni, con gli occhi vitrei e un filo di sangue che gli colava dall'orecchio ferito, si rimise faticosamente in piedi. Conan si curvò leggermente sopra la tavola e spinse la sciabola contro il petto del conte Valenso. «Non chiamare i soldati, conte! Non una parola! E lo stesso vale per te, muso di cane!» disse Conan a Galbro, che non mostrava alcuna intenzione di sfidare la sua collera. «La mappa è ormai ridotta in cenere e non serve a nulla far scorrere il sangue. Seduti tutti quanti!» Strombanni esitò. Accennò un gesto verso l'elsa della spada, poi alzò le spalle e si lasciò andare su una sedia. Gli altri lo imitarono. Conan, rimasto in piedi, sovrastava i suoi avversari che lo guardavano con occhi pieni di odio velenoso. «Stavate discutendo di affari, perciò è quello che sono venuto a fare anch'io!» «E cosa avresti da scambiare, Conan?» «Ah, solo il tesoro di Tranikos!» «Cosa?» «Seduti tutti quanti!» ruggì Conan, vedendoli tutti balzare in piedi, sporgendosi verso di lui. E Conan fece calare la lama di piatto sulla tavola. I quattro uomini si sedettero, tesi e pallidi per l'eccitazione. Conan sogghignò enormemente divertito per la reazione che le sue parole avevano provocato, e continuò. «Sì, ho trovato il tesoro prima di avere la mappa. Per questo l'ho bruciata. A me non serve più, e nessuno troverà il tesoro se non gli mostro io dov'è nascosto!» «Tu menti!» Già prima ci hai raccontato una menzogna, Conan. Hai affermato di provenire dalla foresta, ma di non aver vissuto con i Pitti. Tutti sanno che questa regione è abitata solo da selvaggi. I più vicini avamposti della civiltà sono gli insediamenti aquiloniani sul fiume del Tuono, a centinaia di miglia a oriente da qui. E infatti è da lì che io provengo, Zarono. Credo di essere il primo uomo bianco che ha attraversato le foreste dei Pitti. Quando fuggii da Aquilonia, mi imbattei in un gruppo di Pitti e ne uccisi uno. Ma nella mischia, una pietra scagliata con la fionda mi fece perdere i sensi e quei cani mi presero vivo. Erano della tribù del lupo e mi cedettero alla tribù dell'aquila in cambio di un capo catturato. Le aquile mi trasportarono per un centinaio di miglia ad occidente con l'intenzione di mettermi al rogo nel loro villaggio principale. Ma una notte, dopo aver ucciso un capo e tre o quattro guerrieri, sono riuscito a scappare. Non potevo tornare indietro perché li avevo alle spalle e mi spingevano verso occidente. Qualche giorno fa sfuggii al loro inseguimento, rifugiandomi in un luogo che, per Crom, era proprio il nascondiglio del tesoro del vecchio Tranikos. L'ho trovato tutto, bauli di vesti e armi. Ecco da dove ho preso abiti e sciabola. C'erano mucchi di monete, gemme, monili d'oro e in mezzo a tutto il resto i gioielli di Totmekri che scintillavano come la gede e la luce delle stelle. E il vecchio Tranikos e i suoi 11 capitani seduti a un tavolo d'ebano a guardare quelle ricchezze come hanno fatto da 100 anni a questa parte. Cosa? Sì. Dovete sapere che Tranikos morì in mezzo al suo tesoro e i suoi uomini con lui. I loro corpi non sono putrefatti e né mummificati. Siedono là con i loro ampi stivali e i mantelli orlati e i capelli laccati, il bicchiere di vino stretto nella mano irrigidita, e così stanno da un secolo intero. È una cosa che porta male questa, brontolò Strombanni a disagio. E che ce ne importa? Lo zittì rabbioso Zarono. Noi vogliamo il tesoro, no? Continua, Conan! E il cimmero si sedette alla tavola, riempì una coppa e la traccannò prima di rispondere. Ah, è la prima coppa di vino che bevo da quando ho lasciato l'Aquilonia. Per Crom! Quei maledetti selvaggi mi stavano così dappresso nella foresta che non avevo neanche il tempo di masticare le noci e le radici che trovavo. Talvolta prendevo delle rane e le mangiavo crude, non osando accendere un fuoco. I suoi impazienti ascoltatori lo informarono in malo modo di non essere interessati a quello che aveva mangiato prima di trovare il tesoro. Conan sogghignò con aria insolente e continuò. Bene. Dopo aver inciampato nel tesoro, mi riposai per qualche giorno, costruendo trappole per conigli mentre le ferite guarivano. Vedevo del fumo nel cielo occidentale, ma pensavo che si trattasse di qualche villaggio dei Pitti sulla spiaggia. Mi trovavo vicino, ma per fortuna il tesoro è nascosto in un luogo che i Pitti sfuggono. Se qualcuno mi spiava, non si fece vedere. La scorsa notte mi spostai verso occidente con l'intenzione di raggiungere la spiaggia qualche miglio a nord del luogo dove avevo visto il fumo. Non ero lontano dalla spiaggia quando l'uragano si scatenò. Mi riparai sotto una roccia e aspettai che terminasse. Poi mi arrampicai su un albero per controllare se c'erano dei Pitti e dall'alto scorsi la caracca di Strombanni all'ancora nella baia e i suoi uomini che scendevano a terra. Stavo per dirigermi verso il suo accampamento sulla spiaggia quando incontrai Galacus. Lo infilzai con la sciabola perché c'era un vecchio conto aperto tra noi due. Che cosa ti aveva fatto? Oh, Strombanni, quello mi aveva portato via una ragazza alcuni anni fa. Non mi sarei accorto che aveva la mappa se non avesse cercato di inghiottirla prima di morire. Io la riconobbi naturalmente e stavo pensando all'uso che avrei potuto farne quando siete arrivati voi altri bastardi e avete scoperto il cadavere. Ero nascosto in un cespuglio a non più di 10 passi da te mentre tu discutevi con i tuoi uomini. Ritenni che il momento non fosse opportuno per mostrarmi. Beh, mentre me ne stavo nascosto ad ascoltarvi, mi feci un'idea della situazione e venni a sapere da qualche accenno che Zarone e Valenso si trovavano lungo la spiaggia, poche miglia verso meridione. Così, quando sentii dire che Zarono doveva aver ucciso il tuo secondo per derubarlo della mappa e che intendevi andare a discutere con lui, aspettando l'occasione propizia per ammazzarlo e riprenderti la... Cane! Interruppe rabbioso Zarono. Livido in volto, Strombanni rise senza allegria. Pensi davvero che avrei giocato pulito con un porco rinnegato come te? Continua, Conan! Il cimmero sogghignò. Era evidente che attizzava di proposito il fuoco dell'odio tra i due uomini. Ah, beh, non è rimasto molto da dire. Tagliai per i boschi mentre voi facevate vela verso la costa e raggiunsi il forte prima di voi. La tua supposizione che l'uragano avesse distrutto la nave di Zarono era azzeccata, ma tu conoscevi già la configurazione di questa baia. E questa è tutta la storia. Io ho il tesoro, Strom ha una nave, Valenzo le provviste. Per Crom, Zarono, non vedo proprio come tu possa entrare nell'affare, ma per evitare litigi ci metterò dentro anche te. La mia proposta è abbastanza semplice. Divideremo il tesoro in quattro parti. Strom e io salperemo con la nostra parte a bordo della Mano Rossa. Tu e Valenzo vi prenderete la vostra e restate signori della foresta. O se preferite vi costruite una nave con tronchi d'albero. Valenzo si agitò sulla sedia e Zarono lanciò un'imprecazione, mentre Strombanni sogghignava in silenzio. «Sei stato tanto pazzo da salire da solo sulla Mano Rossa di Strombanni?» disse con forza Zarono. «Ti taglierò la gola ancora prima di perdere di vista la terraferma!» Conan rise sinceramente divertito. «Sembra il problema del lupo, della pecora e del cavolo. Come portarli sull'altra riva del fiume senza che si divorino a vicenda?» «E questo solletica il tuo senso dell'umorismo!» «Non resterò qui!» gridò Valenzo con una luce selvaggia negli occhi scuri. «Tesoro, non tesoro, io devo andarmene!» Conan gli lanciò un'occhiata incuriosita. «Bene allora, e che ne dite di questo piano? Dividiamo il tesoro in quattro parti. Strombanni salperà insieme a Zarono, a Valenzo e anche a quei membri della colonia che lui sceglierà, lasciandomi il comando del forte, il resto degli uomini di Valenzo e tutto l'equipaggio di Zarono. Io mi costruirò una nave!» Zarono parve disgustato. «Dovrei scegliere tra rimanere qui in esilio o abbandonare il mio equipaggio e andare da solo sulla Mano Rossa per ritrovarmi poi con la gola tagliata!» La risata di Conan risuonò impetuosa nella sala. Con aria gioviale, il cimmero diede a Zarono una pacca sulla schiena, senza far caso alla sua occhiata assassina. «È così, Zarono! O resti qui mentre Strom ed io ce ne andiamo o te ne vai con Strombanni, lasciando i tuoi uomini con me!» «Preferirei avere con me Zarono! Saresti capace tu, Conan, di farmi ammutinare gli uomini e di tagliarmi la gola prima di arrivare nelle baracca!» Il viso livido di Zarono era madido di sudore. «Né io né il conte né sua nipote toccheremo terra vivi se salperemo con quel demonio! Siete entrambi in mio potere in questa sala, i miei uomini la circondano! Che cosa mi impedisce di uccidervi tutti e due?» «Ah, nulla, Zarono! Salvo il fatto che se lo fai, gli uomini di Strombanni se ne andranno, lasciandoti marcire su questa costa, sotto la minaccia costante dei Pitti. E salvo il fatto che con me morto non troverai mai il tesoro. E salvo il fatto che se provi a chiamare i tuoi uomini ti spacco in due il cranio, fino al mento!» Conan si mise a ridere come se trovasse buffa la situazione, ma perfino Belesa capì che parlava sul serio. La sciabola sguainata era posata sulle sue ginocchia, mentre la spada di Zarono si trovava sotto il tavolo, fuori della portata del bucaniere. Galbro non era un guerriero e Valenzo sembrava incapace di prendere una qualsiasi decisione o di fare alcunché. «Sì, scopriresti che due come noi non sono facile preda. Sono d'accordo con la proposta di Conan!» dichiarò Strombanni con un'imprecazione. «E tu che ne dici, Valenzo?» «Io devo lasciare questa costa e devo fare in fretta! Devo andarmene lontano, subito!» Strombanni aggrottò la fronte, stupito per lo strano contegno del conte, e si rivolse a Zarono, sogghignando malignamente. «E tu, Zarono? Che cosa vuoi che dica, Strombanni? Lasciami portare i miei 3 ufficiali e 40 uomini a bordo della Mano Rossa, e l'affare è fatto!» «Gli ufficiali e 30 uomini!» «Molto bene, Strombanni. Affare fatto!» Nessuna stretta di mano né un brindisi suggellarono il patto. I due capitani si guardavano come lupi famelici. Il conte si tormentò i baffi con la mano che tremava, perso in foschi pensieri. Conan si stirò come un grosso gatto, bevve dell'altro vino e sogghignò i presenti con la smorfia sinistra di una tigre in agguato. Belesa avvertiva gli intenti omicidi che regnavano nella sala, i propositi di tradimento che dominavano la mente di ciascuno dei presenti. Non uno aveva davvero intenzione di tenere fede al patto, ad esclusione forse di Valenzo. Ciascuno dei 3 pirati intendeva impadronirsi della nave e dell'intero tesoro. Non si sarebbe accontentato di meno. Ma come? Che cosa ruminavano nel loro cervello astuto? Belesa si sentì opprimere e soffocare da quell'atmosfera di odio e di tradimento. Il cimero, nonostante la sua feroce schiettezza, non era meno astuto degli altri e anche più crudele. Dominava la situazione, e non solo in senso fisico, sebbene le sue spalle gigantesche e le membra massicce paressero troppo grandi persino in quell'enorme sala. Da quell'uomo sprizzava una vitalità d'acciaio che adombrava persino la temprata vigoria degli altri due predoni. «E va bene, Conan, guidaci al tesoro!» disse Zarono. «Un attimo di pazienza! Dobbiamo bilanciare le nostre forze in modo che nessuno di noi possa avvantaggiarsi sugli altri. Faremo in questo modo. Gli uomini di Strom, tranne 5 o 6, scenderanno a terra e si accamperanno sulla spiaggia. Quelli di Zarono usciranno dal forte e si accamperanno anch'essi sulla riva, in modo da non perderli d'occhio. I due equipaggi potranno sorvegliarsi a vicenda e quando andremo in cerca del tesoro, stare attenti che qualcuno non ci segua, con lo scopo di tenderci un'imboscata. Gli uomini rimasti a bordo della Mano Rossa porteranno la nave al centro della baia, in modo da tenerla lontana dai due equipaggi. Gli uomini di Valenso potranno restare nel forte, ma lasciando il portale aperto. Tu verrai con noi, Conte Valenso? Venire nella foresta? Nemmeno per tutto l'oro di Tranikos! Valenso rabbrividì e si strinse nel mantello. Va bene, ci vorranno una 30 di uomini per trasportare il tesoro. Ne prenderemo 15 da ciascun equipaggio e partiremo il più presto possibile. Belesa, che seguiva attentamente ogni particolare del dramma che si svolgeva sotto i suoi occhi, vide Zarone e Strombanni scambiarsi occhiate furtive e abbassare rapidamente lo sguardo sulle coppe di vino che portavano alle labbra per nascondere i loro foschi propositi. Lei si rendeva conto della fatale debolezza del piano di Conan e si chiedeva come mai al cimmero fosse fuggita. Forse la sua temerarietà lo rendeva troppo fiducioso nelle sue forze. Ma lei era convinta che non sarebbe mai uscito vivo da quella foresta. Quando il tesoro fosse stato nelle loro grinfie, gli altri due avrebbero stretto un'alleanza fra banditi per liberarsi di quell'uomo che entrambi odiavano. Rabbrividì, fissando con morbosa curiosità colui che riteneva già condannato. Era strano vedere quel poderoso guerriero starsene seduto nella sala a ridere e tracannare vino e sapere che quell'uomo, nel pieno della sua forza e del suo vigore, era ormai votato a una morte sanguinosa. L'intera situazione era densa di presagi tenebrosi e funesti. Zarono avrebbe volentieri ingannato e ucciso Strombanni e lo stesso Strombanni aveva già condannato a morte Zarono e senza dubbio suo zio e lei stessa. Se Zarono avesse vinto la battaglia conclusiva tra quelle menti crudeli e astute, le loro vite sarebbero state salve. Ma guardando il bucaniere intento a tormentarsi i baffi, con un'espressione di assoluta perfidia sul volto bruno, lei non sapeva dire quale dei due destini sarebbe stato più abominevole, se la morte o Zarono. «Quanto dista da qui, Conan?» «Se partiamo entro un'ora, potremo essere di ritorno prima di mezzanotte.» «Valenso! Sei stato un pazzo a uccidere un pitto dipinto con i colori di caccia!» disse Conan alzando il bicchiere. Valenso sobbalzò. «Che intendi dire? Vuoi dirmi che non sapevi che i tuoi uomini hanno ucciso un cacciatore pitto nella foresta ieri notte?» Il conte scosse la testa. «Nessuno dei miei uomini era nella foresta ieri notte, Conan!» «Beh, qualcuno c'era. Ho visto la sua testa inchiodata ad un albero al limitare dei boschi. Non aveva la pittura di guerra. Non ho trovato orme di stivali, quindi ho dedotto che era successo prima dell'uragano. Ma c'era una quantità di altre tracce, orme di mocassini sul terreno bagnato. I pitti sono capitati là e hanno visto la testa. Erano uomini di qualche altra tribù, altrimenti l'avrebbero staccata dall'albero. Se sono in pace con la tribù del morto, la informeranno e scopriremo le tracce che portano al suo villaggio.» «Forse sono stati loro ad ucciderlo», suggerì Valenso. «No, non loro, ma sanno chi è stato per la stessa ragione per cui lo so io. Questa catenella era legata al moncone del collo. Dovevi essere completamente pazzo per lasciare un segno di identificazione così evidente.» E Conan trasse qualcosa dalla tasca e la buttò sulla tavola, di fronte al conte, il quale si alzò vacillando e con un grido strozzato si portò le mani alla gola. Era il sigillo d'oro che portava abitualmente appeso al collo. «Ho riconosciuto il sigillo dei Corzetta, ma sarebbe bastata solo la catenella per dire ai pitti che era l'opera di uno straniero.» Valenso non rispose. Si risedette, fissando la catena come se fosse un serpente velenoso. Conan lo guardò accigliato e rivolse un'occhiata interrogativa agli altri. Zarono fece un rapido gesto indicando che il conte non era del tutto a posto con la testa. Conan rinfoderò la sciabola e si mise il cappello laccato. «Bene, signori, andiamo pure!» I due pirati tracannarono l'ultima sorsata di vino e si alzarono in piedi, riaggiustandosi la cintura delle spade. Zarono pose una mano sul braccio di Valenso e lo scosse leggermente. Il conte trasalì e si guardò attorno. Poi seguì gli altri inebetito con la catenella che ciondolava dalle mani. Ma non tutti avevano abbandonato la sala. Non viste, Belesa e Tina spiarono dalla balaustra e videro Galbro seguire gli altri e attardarsi finché la pesante porta non si fu rinchiusa alle loro spalle. Allora si avvicinò rapido al caminetto e frugò con cura tra le braci. Poi si mise in ginocchio e osservò da vicino qualcosa per un lungo istante. Quindi si rialzò e con un'espressione furtiva scivolò fuori dalla sala, uscendo da un'altra porta. Tina bisbigliò: «Che cosa ha trovato Galbro nel fuoco, padrona?» Belesa scosse la testa, poi, spinta dalla curiosità, scese nella sala vuota. Un attimo dopo era inginocchiata nel punto in cui il siniscalco si era inginocchiato e vide ciò che lui aveva visto. Erano i resti semicarbonizzati della mappa che Conan aveva buttato nel fuoco. Sarebbe bastato un tocco per farla sbriciolare, ma erano ancora visibili alcuni segni e parti di parole. Non riuscì a leggere le parole, ma distinse i contorni di ciò che sembrava essere il segno di una collina o di una rupe, circondata da segni che rappresentavano evidentemente un folto d'alberi. A lei non diceva nulla, ma a giudicare dal comportamento di Galbro era sicura che aveva riconosciuto le caratteristiche di un luogo o di un particolare geografico a lui familiare. Belesa sapeva che il siniscalco si era avventurato nelle foreste più lontano di chiunque altro del forte. Sei. Il forte era stranamente silenzioso nel caldo pomeriggio seguito all'uragano dell'alba. Le voci della gente all'interno della palizzata risuonavano attutite, ovattate. La stessa sonnolenta immobilità regnava sulla spiaggia, dove gli equipaggi rivali, separati da qualche centinaio di metri di sabbia nuda, si fronteggiavano armati e sospettosi. Lontano, nella baia, la mano rossa era all'ancora con un manipolo di uomini pronti a portarla fuori tiro al minimo accenno di tradimento. La caracca era la carta vincente di Strombanni, la migliore garanzia contro i brutti scherzi dei soci. Belesa discese la scala e si fermò alla vista del conte Valenso, che seduto al tavolo stava giocherellando con la catenella. Lo sguardo senza affetto e con molta paura. Il cambiamento che si era prodotto in lui era spaventoso. Sembrava chiuso in un sinistro universo privato, pieno di un terrore che lo spogliava di qualsiasi caratteristica umana. L'astuto piano concertato da Conan eliminava il rischio di un'imboscata nella foresta da parte di uno dei due gruppi, ma a parere di Belesa egli aveva trascurato completamente di proteggere se stesso dal tradimento da parte di quelli che erano con lui. Era svanito nella foresta alla testa di due capitani e dei loro 30 uomini, e la ragazza zingariana era certa che non l'avrebbe più rivisto vivo. Rivolgendosi al conte con una voce che suonava tesa e aspra ai suoi stessi orecchi, disse: «Il barbaro ha condotto i due capitani nella foresta. Quando avranno in mano l'oro, lo uccideranno. Ma quando torneranno con il tesoro, cosa succederà? Dobbiamo salire a bordo di quella nave. Possiamo fidarci di Strombanni?» Valenso scosse il capo con aria assente. «Strombanni ci ucciderebbe tutti per avere la nostra parte. Mazzarono mi ha segretamente confidato le sue intenzioni. Non andremo a bordo della Mano Rossa se non come padroni. Zarono farà in modo che al calar della notte siano costretti ad accamparsi nella foresta. Troverà il modo di uccidere nel sonno Strombanni e i suoi uomini. Poi i bucanieri verranno di soppiatto alla spiaggia. Appena prima dell'alba io farò uscire dal forte di nascosto alcuni pescatori che raggiungeranno a nuoto la nave e se ne impadroniranno. Strombanni non se l'aspetta, e nemmeno Conan. Zarono e i suoi uomini usciranno dalla foresta e insieme ai bucanieri accampati sulla spiaggia piomberanno sui pirati con il favore delle tenebre, mentre io condurrò i miei uomini fuori del forte per completare la disfatta. Senza il loro capitano si sentiranno perduti e sopraffatti di numero. Saranno facile preda per Zarono e me. Dopodiché salperemo sulla nave di Strombanni con tutto il tesoro. «Ma che ne sarà di me?» chiese la ragazza con le labbra secche. «Io ho promessa a Zarono. Se non fosse stato per questo, non avrebbe mai acconsentito a portarci via.» «Non lo sposerò mai!» «Lo sposerai invece!» dichiarò cupo il conte, senza la minima sfumatura di compassione. Sollevò la catenella che riflesse un raggio di sole entrato dalla finestra. «Devo averla lasciata cadere sulla sabbia. Lui doveva essere vicino, sulla spiaggia.» «Te la sei strappata dal collo per caso ieri notte in questa sala quando hai frustato Tina. L'ho vista scintillare sul pavimento prima di uscire.» Il conte si alzò livido per il terrore e lei rise amaramente, captando la muta domanda che gli dilatava gli occhi. «Sì, zio, l'uomo nero è qui, era qui in questa sala. Avrà trovato la catena per terra. Gli uomini di guardia non l'hanno visto, ma era fuori dalla tua porta ieri notte. L'ho visto aggirarsi io, furtivo, nel corridoio di sopra.» Per un istante lei pensò che cadesse fulminato dal terrore. Il conte si abbandonò contro lo schienale e la catena gli scivolò dalle dita inerti e tintinnò sulla tavola. «Il castello! Credevo che chiavistelli, sbarre e uomini armati potessero tenerlo fuori. Sciocco che sono! Non posso tenerlo lontano da me più di quanto posso sfuggirgli! Alla mia porta! Perché non è entrato? Perché non l'ha fatta finita? Ho sognato di svegliarmi nella mia camera in base dal buio e di vederlo acquattato su di me mentre sinistre fiamme infernali danzavano attorno alla sua testa! Perché? Oh, capisco. Sta giocando con me come il gatto con il topo. Uccidermi ieri notte nella mia stanza sarebbe stato troppo semplice, troppo pietoso. Così ha distrutto la nave sulla quale avrei potuto sfuggirgli. Ha ucciso quel disgraziato selvaggio, lasciando la mia catena su di lui perché i pitti credessero che l'avessi ucciso io. Mi hanno visto quella catenella al collo più di una volta. Ma perché? Quale sottile diavoleria ha in mente? Quali sono i suoi propositi tortuosi che l'intelletto umano non può afferrare o comprendere? Chi è questo uomo nero? Chiese Belesa mentre un brivido di terrore le correva lungo la schiena. Un demone che la mia cupidigia e la mia avidità hanno scatenato perché mi perseguitasse in eterno. E il conte stese le dita sottili sulla tavola davanti a sé e fissò la ragazza con occhi infossati stranamente luminosi che sembravano non vederla affatto, ma guardare attraverso di lei verso qualche remoto e oscuro destino. Quando ero giovane avevo un nemico a corte. Un uomo potente che si frapponeva tra me e le mie ambizioni. Nella mia brama di ricchezza e potere cercai aiuto tra i cultori delle arti tenebrose. Uno stregone, per mio volere, evocò un demone dai più remoti abissi dell'esistenza. Esso schiacciò e uccise il mio nemico e io diventai potente e ricco e nessuno mi eguagliava. Credetti di poter ingannare lo stregone non pagando quel prezzo che un mortale deve pagare quando chiede che il popolo delle tenebre soddisfi i suoi voleri. Stregone era Totamon dell'Anello, in esilio dalla nativa Stigia. Era fuggito durante il regno di Remunt Perra e quando Mentu Perra morì a Cethbon salì sul trono di Avorio di Luxor. Totamon rimase a Cordava, anche se poteva tornarsene in patria, e mi sollecitò il pagamento del debito. Ma invece di dargli la metà dei miei proventi come gli avevo promesso, lo denunciai al mio monarca. Cosicché Totamon fu costretto, volente o nolente, a tornarsene di nascosto in Stigia in fretta e furia. Là trovò fortuna, si dice, e crebbe in ricchezza e poteri magici fino a diventare il virtuale regnante del paese. 2 anni fa a Cordava mi giunse voce che Totamon era scomparso dai suoi covi abituali della Stigia. E poi una notte vidi la sua oscura faccia da demone spiarmi dall'ombra nel salone del mio castello. Non era il suo corpo materiale quello, ma il suo spirito inviato a tormentarmi. Quella volta non avevo nessun re che mi proteggesse, perché la morte di Ferdrugo durante il periodo di reggenza nel paese, come ben sai, si erano scatenate lotte intestine. Prima che Totamon potesse raggiungere Cordava in carne e ossa, io salpai per mettermi l'oceano tra me e lui. Anche lui ha i suoi limiti. Per seguirmi attraverso i mari deve restare nel suo corpo umano. Ora quel demone, grazie ai suoi poteri infernali, mi ha seguito fin qui, in questa immensa foresta. È troppo astuto perché lo si possa catturare e uccidere come un uomo normale. Quando si nasconde, nessun essere umano può trovarlo. Scivola come un'ombra nella notte, ridendosela di barre e chiavistelli. Rende ciechi gli occhi delle sentinelle, addormentandole, e può comandare gli spiriti dell'aria, i serpenti degli abissi e i demoni della notte. Può far scoppiare uragani che affondano navi e fanno crollare castelli. Speravo di aver annegato le mie tracce negli azzurri flutti, ma lui mi ha seguito per reclamare la sua sinistra ricompensa. Gli occhi spiritati di Valenso si animarono lievemente. Parevano fissare lontani, invisibili orizzonti che si aprivano oltre le pareti rivestite da razzi. Lo ingannerò di nuovo. Basta che non colpisca stanotte. E l'alba mi vedrà a bordo di una nave. E di nuovo metterò un oceano tra me e la sua vendetta. Per le fiamme dell'inferno! Conan si arrestò bruscamente, lanciando uno sguardo torvo in alto. Alle sue spalle i marinai si fermarono, formando due gruppi compatti, arco in mano e atteggiamento guardingo. Seguivano un vecchio sentiero fatto da cacciatori pitti che portava verso est. Avevano percorso solo un centinaio di metri, ma la spiaggia non era più visibile. «Che succede? Perché ti fermi, Conan?» «Sei cieco, guarda là, Strombanni!» Da un robusto ramo dell'albero che sovrastava la pista, una testa sogghignava verso di loro, un volto scuro, dipinto e incorniciato di capelli neri. Una penna di bucero penzolava sopra l'orecchio sinistro. «Avevo staccato quella testa e l'avevo nascosta tra i cespugli. Chissà chi è l'imbecille che l'ha riappesa là. Sembra che qualcuno stia facendo tutto il possibile per scatenare i pitti contro il forte». Gli uomini si guardarono l'un l'altro, scuri in volto. Un nuovo elemento di sospetto pervadeva gli animi già in fermento. Conan si arrampicò sull'albero, staccò la testa e si diresse verso i cespugli, lanciandola dentro un torrente e guardandola affondare. «I pitti le cui tracce sono attorno all'albero non appartengono alla tribù dei buceri. Ho battuto queste coste a sufficienza per conoscere le tribù costiere. Se ho individuato correttamente le tracce dei loro mocassini, erano cormorani. Spero che siano in guerra con i buceri. Se sono in pace, andranno direttamente al villaggio dei buceri e saranno allora guai per tutti. Non so quanto disti il villaggio, ma appena verranno a sapere di questo omicidio, si lanceranno nella foresta come lupi famelici. È il peggior insulto che si possa fare a un pitto, uccidere un uomo che non porta i colori di guerra e inchiodarne la testa ad un albero come cibo per gli avvoltoi. Cose ben strane avvengono su questa costa, ma è sempre così quando gli uomini civili arrivano nei luoghi selvaggi. Sono tutti pazzi come l'inferno! Dai, andiamo!» Gli uomini liberarono le lame dai foderi e le frecce dalle faretre e si addentrarono nella foresta. Gente di mare, abituati alle distese ondulate di acqua grigia, si sentivano a disagio tra quelle misteriose verdi pareti di alberi e rampicanti che li racchiudevano. Il sentiero serpeggiava e girava, tanto che la maggior parte degli uomini perse l'orientamento e non sapeva nemmeno da quale parte fosse la spiaggia. Conan era inquieto per un'altra ragione. Continuava a esaminare il sentiero e infine disse: «Qualcuno è passato di qui recentemente, non più di un'ora fa. Qualcuno che portava stivali, non un uomo dei boschi. Sarà quel pazzo che ha trovato la testa del pitto e l'ha appesa di nuovo all'albero. Allora chi è stato? Non ho trovato altre tracce oltre quelle dei pitti che avevo già visto prima. E chi è costui che ci precede? Qualcuno di voi due bastardi ha mandato avanti un uomo per qualche suo motivo particolare?» Strombanni e Zarono negarono entrambi decisamente, scambiandosi occhiate torve e sospettose. Nessuno dei due riusciva a scorgere le tracce che Conan indicava, le impronte poco marcate che il cimero vedeva sulla terra battuta e priva d'erba di quel sentiero così strano erano invisibili ai loro occhi non addestrati. Conan sveltì il passo e gli altri si affrettarono a tenergli dietro, mentre nuove braccia andavano ad alimentare il fuoco del sospetto che covava in loro. Adesso il sentiero piegava a settentrione e Conan lo abbandonò, inoltrandosi attraverso gli alberi in direzione sud-est. Il pomeriggio passava lentamente, mentre gli uomini sudati si aprivano il barco tra i cespugli e scavalcavano tronchi. Strombanni, restando un attimo indietro con Zarono, mormorò: «Credi che ci stia conducendo in un'imboscata?» «Può darsi. In ogni caso non riusciremo mai a ritrovare la strada per tornare al mare senza di lui». E Zarono rivolse a Strombanni un'occhiata piena di significato. «Capisco quello che vuoi dire. Questo ci obbliga a modificare i nostri piani». L'atmosfera di sospetto ingigantì mentre avanzavano e aveva raggiunto dimensioni allarmanti quando finalmente emersero dal folto e videro proprio davanti a loro un'alta rupe che si innalzava dal terreno. Un sentiero appena accennato usciva dai boschi, costeggiava un gruppo di macigni e saliva serpeggiando lungo la rupe, seguendo una serie di sporgenze disposte a gradinata che conducevano a un cornicione in prossimità della cima. Conan si fermò, bizzarra figura in eleganti abiti da pirata, e disse: «Ecco il sentiero che ho percorso per sfuggire ai pitti dell'Aquila. Conduce a una caverna che si apre sul cornicione. Nella caverna ci sono i corpi di Tranikos e dei suoi capitani e il tesoro che depredò Totmekri. Ancora un avvertimento però prima di salire. Se voi altri mi uccidete adesso, non troverete mai la strada per tornare al sentiero che conduce alla spiaggia. Conosco bene voi uomini di mare, vi sentite sperduti nella foresta. Naturalmente la spiaggia è a occidente, ma se dovrete aprirvi il cammino nel groviglio della foresta, appesantiti come sarete dal bottino, vi occorreranno non ore, ma giorni per arrivare, e non credo che questi boschi siano un posto sicuro per gli uomini bianchi quando i buceri sapranno della morte del loro cacciatore». E Conan rise vedendo i torvi sorrisi che accolsero le sue parole. Aveva smascherato le loro intenzioni e capì cosa avevano in mente. Avrebbero lasciato che trovasse il tesoro e li conducesse di nuovo verso la spiaggia prima di ucciderlo. «Tutti gli uomini staranno qui. Solo Strombanni e Zarono verranno con me. Bastiamo noi a trasportare il tesoro fuori dalla caverna». Strombanni rise cupo. «Andare laggiù solo con te, Zarono? Mi credi pazzo, Conan? Voglio almeno un uomo con me!» E indicò il suo nostromo, un gigante bruno e dal volto duro a torso nudo, che portava anelli d'oro agli orecchi e una fascia scarlatta attorno alla fronte. «E io il mio boia! Voglio che venga con me!» grugnì Zarono. Fece un cenno a un pirata magro dal volto in carta pecorito che portava una pesante scimitarra senza fodero sulla spalla ossuta. Conan si strinse nelle spalle. «Va bene, seguitemi!» Rimasero incollati a lui quando si arrampicò sul tortuoso sentiero che portava sullo spiazzo. Gli stettero vicinissimi quando varcò la fenditura nella parete e il loro respiro si fece sibilante per la cupidigia alla vista dei cofani di stati di ferro allineati sull'altro lato della piccola galleria che il cimmero mostrò loro. «Un ricco carico! Sete, trine, abiti, ornamenti, armi, tutto il bottino dei mari meridionali. Ma il vero tesoro sta oltre quella porta». La massiccia porta era parzialmente aperta. Conan aggrottò la fronte. Ricordava di averla chiusa nell'abbandonare la caverna, ma non disse nulla ai suoi ansiosi compagni e si fece da parte per lasciarli entrare. Davanti ai loro occhi c'era un'ampia caverna, illuminata da uno strano bagliore azzurrognolo che scintillava attraverso una fumosa bruma simile alla nebbia. Un grande tavolo d'ebano era situato al centro della caverna e in una sedia intagliata dall'alto schienale dagli ampi braccioli, che forse una volta era stato nel castello di qualche barone zingariano, sedeva una figura gigantesca, favolosa e fantastica. Era Tranikos il Sanguinario, la grande testa posata sul petto, la mano che stringeva ancora una coppa ingioiellata. Tranikos, con il suo cappello laccato, il mantello ricamato in oro e i bottoni di pietre preziose che scintillavano sotto la fiamma azzurra, gli stivaloni e la bandoliera d'oro, cui era appesa una spada dall'elsa ingioiellata, chiusa in un fodero d'oro. E allineati attorno al tavolo, tutti con il mento che riposava sul petto, ornato di pizzi, sedevano gli 11 capitani. La fiamma azzurrina mandava bizzarri riflessi su di loro e sul gigantesco ammiraglio, fluendo dall'enorme gemma posata sul piccolo piedistallo d'avorio, traendo bagliori di ghiaccio dai cumuli di gemme fantasticamente tagliate che brillavano davanti a Tranikos. Il bottino di Kemi, i gioielli di Thotmekri, le pietre il cui valore era superiore a quello di tutti i gioielli del mondo messi assieme. Zarono e Strombanni erano pallidi in volto in quel bagliore azzurrino. Alle loro spalle gli uomini erano rimasti a bocca aperta, inebetiti. «Forza, entrate e prendete!» disse Conan facendosi da parte. Zarono e Strombanni corsero avidamente davanti a lui, spingendosi per la fretta. I due uomini li seguirono a ruota. Zarono diede un calcio alla porta per spalancarla e si arrestò con un piede sulla soglia alla vista di una figura distesa sul pavimento che era rimasta nascosta alla vista della porta socchiusa. Era un uomo, prono e rattrappito, con il collo spezzato e la faccia bianca contorta in una smorfia di sofferenza mortale. «Galbro! Morto! Cosa?» Zarono, preso da improvviso sospetto, sporse il capo oltre la soglia. Poi si ritrasse urlando: «C'è la morte nella caverna!» Proprio in quel momento la bruma azzurra turbinò e si condensò. Contemporaneamente Conan si gettò con tutto il suo peso contro i quattro uomini ammassati sulla soglia, facendogli entrare barcollando, ma non cadere lunghi distesi nella sabbia caverna come aveva progettato. Sospettando una trappola, essi stavano già indietreggiando, allontanandosi dal cadavere e dal demone che si stava materializzando. Quindi la sua violenta spinta, pur facendoli barcollare, non ottenne il risultato sperato. Strombanni e Zarono caddero sulle ginocchia, metà dentro e metà fuori. Il Nostromo inciampò nelle loro gambe e il boia andò a sbattere contro la parete. Prima che Conan potesse attuare il suo spietato proposito di spingerli a calci nella caverna e tenere chiusa la porta finché l'orrore soprannaturale non avesse compiuto la sua mortale opera, dovette voltarsi e fronteggiare l'attacco del carnefice, che per primo aveva recuperato equilibrio e presenza di spirito. Il bucaniere sbagliò un tremendo fendente vibrato con la scimitarra perché il cimbero si era scansato di scatto e la grande lama colpì rumorosamente la parete di pietra facendo spezzare scintille azzurrine. Un attimo dopo, la testa del boia rotolava sul pavimento della caverna, sotto il colpo della corta sciabola di Conan. Nella frazione di secondo in cui la rapida azione si era consumata, il Nostromo si alzò e si precipitò contro il cimbero, grandinando con la sciabola colpi che avrebbero sopraffatto un avversario meno robusto. Le sciabole cozzarono con un clangore d'acciaio assordante nella piccola caverna. E nel frattempo i due capitani, terrorizzati dalla presenza sconosciuta che intuivano nella caverna, varcarono la soglia così rapidamente che il demone non riuscì a materializzarsi prima che avessero oltrepassato la magica linea di demarcazione che li poneva al di fuori della sua portata. Nel tempo che impiegarono a rialzarsi in piedi e prendere le scale, il mostro si era dissolto di nuovo in nebbia azzurrina. Duramente impegnato con il Nostromo, Conan raddoppiò i suoi sforzi per sbarazzarsi del suo avversario prima che potesse ricevere aiuto dagli altri due. Il Nostromo perdeva sangue ad ogni passo e indietreggiava sotto il furioso assalto del cimbero, urlando per chiamare i suoi compagni. Prima che Conan potesse vibrargli il colpo definitivo, i due capi si lanciarono all'attacco spada in pugno, chiamando a gran voce i loro uomini. Il cimmero spiccò un balzo all'indietro e con un altro salto fu sul cornicione. Sebbene si sentisse in grado di fronteggiare tra i uomini, anche se tutti abilissimi spadaccini, non desiderava affatto essere intrappolato dagli equipaggi che sarebbero accorsi di gran carriera al rumore della battaglia. Ma gli uomini non arrivavano con la celerità che aveva temuto. Erano rimasti perplessi per i rumori e le grida attutite che provenivano dalla caverna soprastante. Ma nessuno osava imboccare per primo il sentiero per la paura di una spada nella schiena. Le due bande si fronteggiavano tese, con le armi in pugno, ma incapaci di prendere una decisione. Quando videro il cimmero balzare fuori sul cornicione, esitarono ancora. Mentre se ne stavano immobili con le frecce incoccate, Conan salì di corsa alla scala di appigli scavati nella rupe, vicino alla caverna, e si stese prono sulla cima del dirupo, scomparendo alla loro vista. I capitani si precipitarono sul cornicione urlando furiosamente e brandendo la spada. Gli uomini, vedendo che i loro capi non erano alle prese tra loro, smisero di minacciarsi e lanciarono esclamazioni stupefatte. Cane! Volevi prenderci in trappola e ammazzarci, traditore! Conan li scarnì dall'alto. E che cosa vi aspettavate, Zarono? Voi due avevate in mente di tagliarmi la gola non appena vi avessi procurato il tesoro. Se non fosse stato per quell'imbecille di Galbro, vi avrei intrappolati tutti e quattro e avrei raccontato ai vostri uomini che la vostra stessa balordaggine vi aveva portati alla rovina. E una volta morti noi due, ti saresti preso la mia nave e tutto il tesoro! Urlò Strombanni, schiumando di rabbia. «Sì, è il migliore dei due equipaggi. È da mesi ormai che ho in mente di tornare nel continente e questa era davvero una buona occasione. Erano le orme di Galbro, quelle che avevo visto sul sentiero, anche se non so come abbia fatto quello stupido a sapere di questa caverna o come pensasse di portarsi via il tesoro da solo». «Se non avessimo visto il suo corpo, saremmo caduti in quella trappola mortale!» mormorò Zarono con il volto bruno ancora grigiastro. «Ma che cos'era quella nebbia velenosa?» chiese Strombanni. «No, si contorceva come un essere vivente, Strombanni, e si stava consolidando in qualche forma diabolica prima che saltassimo fuori. Sarà qualche demone confinato nella caverna da un incantesimo!» «E adesso che cosa avete intenzione di fare?» gridò ironicamente il loro invisibile persecutore. «Che cosa facciamo?» chiese Zarono a Strombanni. «Nella caverna non si può entrare!» «Non riuscirete mai a prendere il tesoro! Il demone vi strangolerà! Quasi ci stava riuscendo con me quando entrai là dentro!» «Statemi a sentire e vi racconterò una storia che i pitti raccontano nelle loro capanne quando il fuoco sta morendo! Una volta, molto tempo fa, 12 uomini strani vennero dal mare, si imbatterono in un villaggio di pitti e ne passarono tutti gli abitanti a fil di spada, tranne pochi che riuscirono a fuggire in tempo. Poi trovarono una caverna e la riempirono d'oro e di pietre preziose. Ma lo sciamano della tribù massacrata, uno di quelli che erano scampati, fece una magia ed evocò un demone dagli abissi più profondi. Servendosi dei suoi poteri magici, egli costrinse il demone ad entrare nella caverna e a strangolare gli uomini che erano seduti a bere vino. Poi, affinché il demone non potesse uscirne e perseguitare gli stessi pitti, lo sciamano lo confinò con le sue arti magiche nella caverna interna. Il racconto passò di tribù in tribù e tutti i clan sfuggono quel luogo maledetto. Quando mi arrampicai qui per sfuggire ai pitti dell'Aquila, mi resi conto che quella vecchia leggenda era vera e che si riferiva a Tranikos e ai suoi uomini. La morte sta di guardia al tesoro del vecchio Tranikos. Facciamo salire gli uomini, andremo a prenderlo e lo trascineremo giù. Non essere sciocco, Strombanni. Pensi che qualcuno possa arrampicarsi su quegli appigli sotto la minaccia della sua spada? Faremo venire qui gli uomini, d'accordo, ma riempirlo di frecce se osa mostrarsi. E avremo anche quelle gemme, ti dico. Il cimmero ha qualche piano per impadronirsi del tesoro o non avrebbe portato 30 uomini per trasportarlo. Se lui può prenderlo, ci riusciremo anche noi. Piegheremo la lama di una sciabola per farne un rampino, la legheremo ad una corda e agganceremo una gamba al del tavolo, trascinandolo qui verso la porta. Ben pensata, Zarono! Disse la voce irridente di Conan. Proprio quello che avevo in mente io. Ma come farai a trovare la via del ritorno? Sarà buio molto prima che riusciate a raggiungere la spiaggia. Se dovete cercare la strada fra i boschi e io vi seguirò, vi ucciderò uno a uno nel buio. Non è solo una minaccia, mormorò Strombanni. Lui può muoversi e colpire nel buio, elusivo e silenzioso come uno spettro. Se ci dà la caccia mentre siamo nella foresta, pochi di noi rivedranno la spiaggia. Allora lo uccideremo qui, Strombanni. Alcuni lo terranno sotto tiro con gli archi, mentre gli altri si arrampicheranno sulla rupe. Se non lo colpiamo con le frecce, qualcuno di noi raggiungerà lui con la spada. Ma ascolta, perché ride? Perché sento uomini già morti fare piani, disse la voce sinistramente divertita di Conan. Non badargli, Strombanni, replicò Zarono con faccia torba. Ad alta voce gridò agli uomini di raggiungerlo sul cornicione. I marinai presero a inerpicarsi per il ripido sentiero e uno stava per gridare una domanda quando si udì un ronzio come di un'ape arrabbiata seguita da un tonfo. Il bucaniere emise un'esclamazione soffocata e il sangue gli sgorgò dalla bocca aperta. Crollò in ginocchio con una freccia nera che gli sporgeva dalla schiena. I suoi compagni lanciarono un grido d'allarme. «Che succede?» Pitti! Abbaiò un pirata rispondendo a Strombanni, alzando l'arco e scoccando alla cieca. Al suo fianco un uomo lanciò un gemito e cadde a terra con una freccia conficcata nella gola. «Al riparo, idioti!» urlò Zarono. Dal punto in cui si trovava, riusciva a distinguere delle figure dipinte che si muovevano tra i cespugli. Uno degli uomini che si trovavano sul sentiero cadde colpito a morte. Gli altri strisciarono in fretta verso le rocce che contornavano la base della rupe. Si nascosero goffamente, non abituati a quel genere di combattimento. Le frecce fioccarono dai cespugli, spezzandosi contro i massi. Gli uomini sul cornicione si stesero a terra. «Siamo in trappola!» disse Strombanni pallido in volto. Era abbastanza coraggioso quando aveva il ponte di una nave sotto i piedi, ma quel modo di combattere, silenzioso e selvaggio, metteva a dura prova la sua tempra spietata. «Conan ha detto che hanno paura di questa rupe. Quando cadrà la notte gli uomini potranno salire fin qui. Terremo questa posizione. I pitti non oseranno attaccarci», disse Zarono. «Sì, non si arrampicheranno sulla rupe, è vero. Si limiteranno a circondarla e vi terranno qui finché morirete di fame e di sete». «Ha ragione quel maledetto. Che cosa facciamo?» «Una tregua con lui, Zarono. Se c'è un uomo che può toglierci da questa situazione, quello è il Cimmero. Avremo tempo di tagliargli la gola più tardi». «Conan! Dimentichiamo la nostra contesa per ora! Anche tu sei nella nostra stessa situazione! Vieni giù e aiutaci ad uscirne!» «Che cosa te lo fa credere? Non ho che da aspettare il buio, scendere dall'altro lato della rupe e svanire nella foresta. Posso strisciare attraverso le file dei pitti che circondano questa rupe, tornare al forte e raccontare che siete stati tutti uccisi dai selvaggi. Il che, signori, tra poco sarà anche vero!» Zarono e Strombanni si fissarono pallidi e silenziosi. «Ma non lo farò! Non perché provi amicizia per voi bastardi, ma perché non mi va di lasciare che dei bianchi, anche se nemici, siano massacrati dai pitti!» La chioma nera e scompigliata del Cimmero sbucò oltre la cresta della rupe. «Ora ascoltate attentamente! Sono in pochi laggiù! Li ho visti strisciare fra i cespugli poco fa quando ridevo. Se fossero stati più numerosi, tutti gli uomini che si trovano alla base della rupe sarebbero già morti. Credo che si tratti di un gruppo di giovani veloci mandati dal drappello di guerra vero e proprio a tagliarci la strada verso la spiaggia. Sono sicuro che un grosso gruppo di guerrieri è già in cammino verso di noi. Hanno circondato il fianco occidentale della rupe, ma credo che il fianco orientale sia sgombro. Scenderò da quel lato, entrerò nella foresta e mi porterò alle loro spalle. Nel frattempo voi scendete lungo il sentiero e raggiungete i vostri uomini tra le rocce. Dite loro di riporre gli archi e sguainare le spade. Quando mi sentirete urlare, correte verso gli alberi sul lato occidentale della radura. E il tesoro! E all'inferno il tuo tesoro! Saremo fortunati se riusciremo ad allontanarci da qui con la testa sul collo!» La chioma nera sparì. Tesero gli orecchi per udire un rumore che indicasse che Conan era sceso dalla ripida parete orientale della rupe, ma non udirono nulla. Nemmeno da oriente giungevano rumori. Le frecce avevano smesso di colpire i massi che riparavano i marinai, ma tutti sapevano che feroci occhi neri li stavano sorvegliando con pazienza e crudeltà. Cautamente, Strombanni, Zarono e il Nostromo cominciarono a scendere il sentiero. Erano a metà strada quando alcune frecce nere sibilarono attorno a loro. Il Nostromo emise un gemito e rotolò inerte lungo il pendio colpito al cuore. Altre frecce si spuntarono contro gli elmetti e le corazze dei due capitani mentre rotolavano freneticamente lungo il ripido sentiero. Raggiunsero la base con una grossa corsa affannosa e si distesero ansimanti tra i macigni, imprecando senza fiato. «È un altro trucco di Conan, questo?» «Possiamo credergli questa volta, Zarono. I barbari vivono seguendo un loro particolare codice d'onore e Conan non abbandonerebbe mai degli uomini bianchi perché siano massacrati da gente di un'altra razza. Ci aiuterà, anche se ha intenzione di ucciderci lui stesso. Ascolta!» Un urlo, da far agghiacciare il sangue, squarciò il silenzio. Veniva dalla foresta da occidente. Contemporaneamente, un oggetto tracciò un arco sopra gli alberi, colpì il terreno e rotolò rimbalzando verso le rocce. Una testa umana spiccata dal tronco, col volto paurosamente dipinto, irrigidito in una smorfia di morte. «Il segnale di Conan! ruggì Strombanni e i disperati pirati balzarono in piedi e come un'onda si lanciarono di corsa verso la foresta. Frecce piovvero dai cespugli, ma i tiri erano affrettati e incerti. Solo 3 uomini caddero. Poi i feroci uomini di mare si tuffarono nel verde e piombarono sulle figure nude e dipinte che emergevano dalla penombra davanti a loro. Seguirono alcuni istanti di micidiale corpo a corpo. Sciabole scagliarono a terra asce di guerra, piedi calzati di stivali calpestarono corpi nudi. Poi piedi nudi si lanciarono in una fuga affannosa fra i cespugli e i sopravvissuti a quella rapida carneficina abbandonarono 7 cadaveri tra le foglie macchiate di sangue che cospargevano il terreno. Più indietro, nel folto, ci fu un fruscio e il rumore di qualcosa che veniva sollevato. Poi il suono cessò e apparve Conan. Aveva perduto il cappello laccato, il mantello era strappato e dalla corta sciabola che stringeva in pugno colava sangue. «E ora?» ansimò Zarono. Sapeva che la carica aveva avuto successo solo perché Conan aveva colto di sorpresa alle spalle i pitti, demoralizzandoli e impedendo loro di arretrare davanti all'attacco. Ma scoppiò in imprecazioni quando il cimmero trapassò con la sciabola un bucaniere che si contorceva a terra con un fianco squarciato. «Ah, non potevamo portarlo con noi e non sarebbe stato gentile lasciare che i pitti lo prendessero vivo. Andiamo, forza!» Gli stettero alle calcagna quando si avviò a piccolo trotto tra gli alberi. Se fossero stati soli, avrebbero girovagato per ore prima di riuscire a trovare il sentiero che conduceva alla spiaggia, sempre che riuscissero a trovarlo. Il cimmero li guidava, sicuro come se stesse seguendo un sentiero illuminato, e i pirati lanciarono isteriche grida di sollievo quando si imbatterono all'improvviso nel sentiero che correva verso occidente. «Imbecille!» Conan afferrò per la spalla un pirata che stava per lanciarsi di corsa e lo spinse fra i suoi compagni. «Ti farai scoppiare il cuore e crollerai prima di aver percorso 1000 metri! Mancano ancora miglia alla spiaggia! Tieni un passo svelto! Forse ci toccherà correre nell'ultimo miglio! Risparmia un po' di fiato per allora! Forza! Andiamo adesso!» E si incamminò per il sentiero a passo veloce. I marinai lo seguirono, adeguando il loro passo al suo. Il sole sfiorava le onde dell'oceano occidentale. Tina era alla finestra, la stessa dalla quale Belesa aveva osservato l'uragano. «Il sole del tramonto trasforma l'oceano in una distesa di sangue. La vela della caracca sembra una macchia bianca sull'acqua scarlatta. La foresta è già buia per l'addensarsi delle ombre». «E cosa fanno i marinai sulla spiaggia, Tina?» chiese Belesa. Riposava supina su un divano con gli occhi chiusi e le mani intrecciate dietro la nuca. «Entrambi gli accampamenti preparano la cena, raccolgono legna per accendere il fuoco. Li sento gridare. Che cos'è questo?» L'improvvisa tensione nella voce della fanciulla fece drizzare Belesa sul divano. Tina si afferrò al davanzale, pallida in volto. «Ascolta! Un ululato lontanissimo, come di molti lupi!» «Lupi?» Belesa balzò in piedi con il cuore stretto da una morsa di paura. «I lupi non cacciano in branchi in questo periodo dell'anno! Oh, guarda, padrona! Degli uomini escono di corsa dalla foresta!» In un attimo Belesa fu accanto a lei, guardando con occhi sbarrati le figure piccole in lontananza che uscivano dalla foresta. «I marinai, a mani vuote! Ecco Zarono, Strombanni! Dov'è Conan, padrona?» mormorò la bambina e Belesa scosse la testa. «Ascolta! Oh, ascolta! I pitti!» gemette Tina stringendosi a lei. Tutti nel forte potevano udirlo adesso, un lungo ululato di folle esultanze e di desiderio di sangue che proveniva dal profondo dell'oscura foresta. Il suono spronò gli uomini ansimanti che si diressero barcollando verso la palizzata. «Correte! Li abbiamo quasi addosso! La nave è troppo lontana per raggiungerla, Strombanni! Dirigiamoci alla palizzata! Guarda, gli uomini accampati sulla spiaggia ci hanno già visto!» Zarono agitò le braccia in una muta pantomima, ma gli uomini sulla riva capirono e riconobbero il significato di quel selvaggio ululato che saliva in un trionfante crescendo. I marinai abbandonarono i fuochi e le marmitte e corsero verso la porta della palizzata. Entrarono proprio quando i fuggitivi dalla foresta giravano l'angolo meridionale ed entravano barcollando nella porta, un gruppo ansante e frenetico, mezzo morto per lo sforzo. La porta fu chiusa in fretta e furia e i marinai salirono i bastioni, unendosi ai soldati già appostati. Belesa, che era scesa precipitosamente dal castello, affrontò Zarono. «Dov'è Conan?» Il bucaniere indicò con un dito la foresta ormai buia. Il suo petto si sollevò pesantemente. Aveva il volto rigato di sudore. «I loro esploratori ci erano proprio alle calcagna quando abbiamo raggiunto la spiaggia! Conan si è fermato ad abbazzarne qualcuno per darci il tempo di allontanarci!» Si allontanò barcollando per prendere posto sui bastioni, dove c'era già Strombani. C'era anche Valenso, una fosca figura avvolta nel mantello, stranamente silenzioso e solitario. Sembrava un uomo stregato. «Guardate!» urlò un pirata, coprendo gli urli assordanti dell'orda ancora invisibile. Un uomo emerse infatti dalla foresta e corse rapido attraverso la spianata spoglia. «Conan! Siamo al sicuro dietro la palizzata! Sappiamo dov'è il tesoro! Non c'è ragione per non riempirlo di frecce ora!» disse Zarono con un sogghigno da lupo. «No! Avremo bisogno della sua spada, Zarono! Guarda!» disse Strombanni afferrandolo per il braccio. Alle spalle del veloce cimmero, un'orda selvaggia sbucò dalla foresta ululando mentre correva. Centinaia e centinaia di pitti nudi. Le loro frecce piovvero tutt'attorno al barbaro. Pochi balzi ancora e Conan raggiunse il lato orientale della palizzata, spiccò un salto, si afferrò alle cime appuntite dei pali e volteggiò al di sopra con la sciabola stretta tra i denti. Le frecce si conficcarono nei pali dove un attimo prima c'era stato il cimmero. Conan aveva perduto lo splendido mantello e la camicia bianca era strappata e macchiata di sangue. «Fermateli! Se raggiungono il muro siamo perduti!» disse il barbaro mentre i suoi piedi toccavano la passerella interna alla palizzata. Pirati, bucanieri e soldati obbedirono immediatamente e una nuvola di frecce e dardi colpì l'orda che avanzava. Conan vide Belesa e Tina aggrappata alla sua mano e il suo linguaggio si fece molto colorito. «Entrate dentro il castello! Le loro frecce supereranno la palizzata! Che cosa vi avevo detto?» Un dardo nero andò a conficcarsi per terra ai piedi di Belesa, ondeggiando come un serpente. Conan afferrò un arco e balzò sui bastioni. «Qualcuno prepari delle torce!» «Diamine! Non posso vederli con questo buio!» Il sole era tramontato in una pozza di sangue. Nella baia, gli uomini a bordo della caracca avevano tagliato la catena dall'ancora e la mano rossa si allontanava rapidamente nell'orizzonte scarlatto. Sette. Era caduta la notte, ma le torce gettavano fiotti di luce sulla sabbia, illuminando la folle scena con una chiarezza spettrale. Uomini nudi dal corpo dipinto sciamavano sulla spiaggia, si spingevano come ondate contro la palizzata, con i denti grignanti e gli occhi fiammeggianti che luccicavano al chiarore delle torce conficcate fra le cime dei pali. Penne di bucero ondeggiavano tra le chiome nere e penne di cormorano e di falco di mare. Alcuni guerrieri, i più selvaggi e i più barbari, portavano denti di squalo tra i capelli arruffati. Tutte le tribù costiere della zona si erano riunite per liberare il loro paese dagli invasori bianchi. I guerrieri si lanciavano come una marea contro la palizzata, preceduti da nugoli di frecce, e si aprivano la strada tra frecce e dardi che li decimavano dalla palizzata. Due o tre volte giunsero così vicini da colpire la porta con le asce di guerra e scagliare le lance attraverso le feritoie. Ma ogni volta la marea rifluiva senza essere riuscita a superare la palizzata, abbandonando cumuli di morti. In quel tipo di battaglia i predoni del mare erano i più forti. Frecce e dardi scavavano vuoti nell'orda alla carica. Le sciabole abbattevano i selvaggi che tentavano di scalare la palizzata. Nonostante tutto, gli uomini della foresta tornavano ogni volta all'assalto con la cocciuta ferocia dei loro cuori selvaggi. «Sembrano cani impazziti!» ansimò Zarono, colpendo ripetutamente le mani scure che si afferravano alla palizzata e i volti bruni che ringhiavano verso di lui. «Se riusciamo a tenere il forte fino all'alba, perderanno il coraggio! Non continueranno a lungo l'assedio! Guarda, stanno già indietreggiando!» La carica infatti si esauriva. Gli uomini sulla palizzata si tersero il sudore dagli occhi, contarono i morti e strinsero più saldamente l'elsa delle spade, viscida di sangue. Come lupi assetati di sangue, respinti da una preda che credevano messa alle strette, i pitti si ritirarono ai limiti del cerchio di luce delle torce. Solo i corpi degli uccisi giacevano davanti alla palizzata. «Se ne sono andati?» Strombanni scosse le ciocche fulve e sudate. La corta sciabola che stringeva in pugno era ammaccata e arrossata. Il braccio bruno era macchiato di sangue. «Sono ancora là fuori!» Conan indicò l'oscurità che circondava la fascia illuminata, resa ancora più profonda per il contrasto con le luci delle torce. Scorgeva qualche movimento nell'ombra, lo scintillio degli occhi e il bagliore rossastro delle armi di rame. «Resteranno là per un po' comunque. Mettete delle sentinelle sul muro e date da mangiare e bere al resto degli uomini. È passata la mezzanotte e sono ore che combattiamo senza un attimo di tregua. Ehi Valenzo! Come va la battaglia dalla tua parte?» Il conte, con la corazza e l'elmetto ammaccati e sporchi di sangue, salì accigliato verso Conan e i capitani. In risposta borbottò qualcosa di incomprensibile. E poi, dall'oscurità, venne una voce, alta, chiara, ed essa risuonò nell'intero forte. «Conte Valenzo! Conte Valenzo di Corzetta! Mi senti?» Parlava con accento stigiano. Conan udì il conte ansimare come fosse stato colpito a morte. Valenzo barcollò e si afferrò alla palizzata, con il volto esangue alla luce delle torce. La voce continuò. «Sono io, Totamon dell'Anello! Pensi di potermi sfuggire un'altra volta? È troppo tardi ormai! Tutti i tuoi piani non ti serviranno a nulla, perché stanotte ti manderò un messaggero! È lo stesso demone che stava di guardia al tesoro di Tranikos! Io l'ho liberato dalla caverna e l'ho costretto a servirmi! Ti infliggerà la condanna che ti sei guadagnato, cane! Una morte insieme lenta, dolorosa ed ignobile! Vediamo come farai a cavartela questa volta!» Il discorso terminò con uno scroscio di risa. Valenzo lanciò un urlo di terrore, balzando giù dai bastioni e si allontanò di corsa verso il castello. Cessato il combattimento, Tina si era avvicinata cautamente alla finestra, dalla quale le due ragazze si erano tenute lontane per paura delle frecce. In silenzio osservò gli uomini raccolti attorno al fuoco. Belesa era intenta a leggere una lettera che le era stata consegnata da una serva. C'era scritto: «Dal conte Valenzo di Corzetta a suo nipote Belesa. Salute. Il destino mi ha infine raggiunto. Ora che mi sono sottomesso, se non proprio rassegnato adesso, voglio che tu sappia che l'averti usata in un modo non degno dell'onore dei Corzetta non mi ha lasciato insensibile. Mi sono comportato così perché le circostanze non mi avevano lasciato altra scelta. Pur se è tardi per le scuse, ti chiedo di non pensare a me con troppa durezza. E se riuscirai a farlo e a sopravvivere a questa notte di sciagura, prega Mitra per l'anima macchiata del fratello di tuo padre. Ti consiglio di rimanere lontana dalla grande sala per evitare che il destino che mi aspetta possa ricadere anche su di te. Addio.» A Belesa, leggendo, tremarono le mani. Sebbene non le riuscisse di amare suo zio, quello era il gesto più umano che gli avesse mai visto fare. Dal davanzale Tina disse: «Dovrebbero esserci più uomini sui muri! E se l'uomo nero tornasse?» Belesa, avvicinatasi alla finestra per guardare fuori, rabbrividì a quel pensiero. «Ho paura, padrona! Spero che Strombanni e Zarono vengano uccisi!» «E Conan, no?» chiese incuriosita Belesa. «Conan non ci farebbe alcun male, padrona! Vive secondo il suo barbarico codice d'onore! Loro, invece, hanno perduto ogni onore!» «Sei saggia per la tua età, Tina», disse Belesa, provando l'indefinibile disagio che la precocità della bambina destava sovente in lei. «Guarda! La sentinella sul muro meridionale non c'è più! L'ho vista un attimo fa e ora è sparita!» Dalla finestra, la sommità della palizzata meridionale era appena visibile, spuntando dai tetti inclinati di una fila di capanne che sporgevano parallele al muro per quasi tutta la sua lunghezza. Ne risultava una specie di corridoio scoperto, largo 3 o 4 metri, costituito dalla palizzata e dalla parete posteriore delle capanne che formavano una fila ininterrotta. le capanne erano abitate dai servi. «Dove può essere andata la sentinella, padrona?» Belesa osservava un'estremità della fila di capanne, non lontane da una porta laterale del castello. Avrebbe giurato di aver visto un'ombra scivolare dal retro delle capanne e sparire vicino alla porta. Era la sentinella scomparsa? Perché aveva lasciato il muro e perché era entrata di nascosto nel castello? Ma non credeva che fosse la sentinella quella che aveva scorto e una paura senza nome le gelò il sangue. «Dov'è il conte, Tina?» «Nel salone, milady, è seduto al tavolo solo, avvolto nel mantello e beve vino, con il volto grigio come la morte!» «Tina, vai a dirgli ciò che abbiamo visto. Io starò di guardia alla finestra per controllare che i pitti non superino di nascosto il muro incustodito!» Tina corse via. Ricordando improvvisamente l'avvertimento a tenersi lontana dal salone contenuto nella lettera dal conte, Belesa si alzò in piedi, ma udì solo lo scalpiccio attutito delle pantofole di Tina allontanarsi lungo il corridoio verso la scala. Poi improvvisamente echeggiò un terribile urlo gonfio di tanta acuta paura che il cuore di Belesa quasi cessò di battere. Fu fuori della stanza e di corsa per il corridoio prima ancora di rendersi conto di essersi mossa. Corse giù per la scala e si fermò impietrita. Non urlò come aveva fatto Tina. Era incapace di fare qualsiasi movimento o di emettere un suono. Vide Tina. Si rese conto della realtà delle sue piccole mani che si afferravano freneticamente a lei. Ma era quella l'unica realtà sensata in una scena di incubo, follia e morte, dominata dalla mostruosa ombra vagamente umana che protendeva le sue braccia orrende sullo sfondo di un sinistro bagliore infernale. Fuori, sulla palizzata, Strombanni scosse il capo alla domanda di Conan. «Non ho sentito nulla!» «Io sì! È venuto dal muro meridionale, dietro quelle capanne!» Gli istinti selvaggi di Conan si erano destati. Era teso, con gli occhi fiammeggianti. Sguainata la scimitarra, si diresse a grandi passi verso la palizzata. Dall'interno del forte, il muro meridionale e la sentinella di guardia non erano visibili, essendo nascosti dalle capanne. Strombanni lo seguì, colpito dai modi del cimmero. Giunto all'imboccatura dello spiazzo, aperto tra le capanne e il muro, Conan si fermò cauto. Lo spazio era debolmente illuminato dalle torce che bruciavano agli angoli della palizzata e a metà del corridoio una figura rannicchiata giaceva a terra. «Racus! Ermitra! Gli hanno tagliato la gola da orecchio a orecchio!» imprecò Strombanni. Conan scrutò con una rapida occhiata, ma lo vide vuoto ad eccezione di lui, di Strombanni e del morto. Guardò attraverso una feritoia. Nessuno si muoveva nella zona illuminata fuori del forte. «Chi può essere stato?» «Zarono!» Strombanni si alzò, furioso come un gatto selvatico, i capelli ritti, il volto contorto dall'ira. «Ha ordinato ai suoi ladroni di pugnalare i miei uomini alla schiena! Ha in mente di annientarmi con il tradimento! Per tutti i demoni, i nemici non sono solo fuori del forte!» «Aspetta, Strombanni, io però non credo che Zarono...» Ma il pirata, folle di rabbia, si liberò e svoltò di corsa la fila di capanne, lanciando imprecazioni. Conan gli corse dietro, imprecando a sua volta. Strombanni andò dritto al fuoco presso cui era visibile la figura alta e magra di Zarono. Il capo dei bucanieri stava ingollando un boccale di birra. Lo stupore di Zarono fu enorme quando il boccale gli saltò di mano, riempiendogli di schiuma il pettorale della corazza, e una spinta lo fece girare su se stesso, mettendolo di fronte al volto stravolto dall'odio del pirata. «Tu, cane assassino, ti diverti a uccidermi gli uomini dietro le spalle, eh? Mentre essi combattono per la tua sporca pellaccia, oltre che per la mia!» Conan si affrettava verso di loro, e tutti gli uomini smisero di mangiare e bere per fissare stupiti la scena. «Che cosa vuoi dire? Hai ordinato ai tuoi uomini di pugnalare i miei nelle loro postazioni! Menti!» L'odio che covava dentro di loro divampò all'improvviso. Con un urlo insensato, Strombanni sollevò la sciabola e la calò sulla testa del bucaniere. Zarono parò il colpo con il braccio sinistro, protetto dalla corazza, e scintille sprizzarono mentre barcollava all'indietro snudando la spada. In un attimo i due capitani combattevano come forsennati e le lame mandavano bagliori corruschi alla luce del fuoco. I due equipaggi reagirono immediatamente e con cieca furia. Un profondo ruggito si levò dalla folla di pirati e bucanieri che sguainarono le spade e si lanciarono uno contro l'altro. Gli uomini rimasti sui muri abbandonarono il loro posto e balzarono a terra con le spade in pugno. In un lampo, l'interno del forte si trasformò in un campo di battaglia, dove gruppi aggrovigliati di uomini colpivano e uccidevano con cieca frenesia. Alcuni dei soldati e dei servi furono coinvolti nella mischia e i soldati di guardia alla porta si voltarono a guardare stupiti, dimenticando il nemico che stava in agguato fuori. Tutto accadde così rapidamente, mentre l'odio lungo represso esplodeva nell'improvvisa battaglia, che il forte era già pieno di uomini in lotta prima che Conan riuscisse a raggiungere i due capitani impazziti. Ignorando le loro spade, il cimmero li separò con tanta violenza che entrambi barcollarono all'indietro e Zarono inciampò cadendo lungo disteso. «Maledetti imbecilli! Volete rovinarci tutti!» Strombanni schiumava di rabbia e Zarono gridava che lo aiutassero. Un bucaniere si slanciò su Conan da dietro e cercò di colpirlo alla testa. Il cimero si voltò a mezzo e gli afferrò il braccio, arrestando il colpo a mezz'aria. «Guardate, idioti!» ruggì, indicando con la sciabola la palizzata. Qualcosa nel suo tono colpì l'attenzione della massa impazzita. Gli uomini si immobilizzarono e alzarono il capo a guardare. Conan indicava un soldato sui bastioni. L'uomo barcollava annaspando con un grido d'allarme soffocato. Poi cadde a testa in giù e tutti poterono vedere la freccia nera che gli spuntava dalla schiena. Un grido d'allarme si alzò nel forte, subito seguito da un clamore di urla agghiaccianti e da colpi d'ascia contro il portone. Frecce incendiare superarono la palizzata e si conficcarono nei tronchi, mentre si innalzavano piccole volute di fumo azzurrognolo. Poi da dietro le capanne allineate lungo il muro meridionale uscirono di corsa figure rapide e furtive. «I pitti sono entrati!» ruggì Conan. Al suo grido fece seguito una confusione incredibile. I pirati smisero i loro duelli, alcuni si voltarono ad affrontare i selvaggi, altri balzarono sulla palizzata. I pitti sciamavano da dietro le capanne e irrompevano a ondate dietro la cinta. Le loro asce cozzavano contro le sciabole dei marinai. Zarono cercava ancora di rimettersi in piedi quando un selvaggio dipinto gli arrivò di corsa alle spalle e gli spaccò il cranio con l'ascia da guerra. Conan, insieme ad un gruppetto di marinai, combatteva dentro la palizzata. Strombanni, seguito dal grosso dei suoi uomini, era salito sulla palizzata e menava colpi contro le brune figure che già superavano il muro. I pitti, che si erano silenziosamente avvicinati e avevano circondato il forte, mentre i difensori combattevano tra loro, attaccavano ora da tutti i lati. I soldati di Valenso erano ammassati alla porta, nel tentativo di difenderla dalla massa di demoni esultanti che la colpivano dall'esterno con un tronco. Altri selvaggi continuavano ad apparire a ondate dietro le capanne, scalando il muro meridionale incustodito. Strombanni e i suoi pirati furono respinti dagli altri lati della palizzata e in un attimo il forte fu pieno di guerrieri nudi che si gettavano sui difensori come tanti lupi. La battaglia si era tramutata in una serie di gorghi turbinanti formati da selvaggi dipinti che si lanciavano ferocemente contro piccoli gruppi di bianchi disperati. Pitti, marinai e soldati ricoprivano il terreno calpestati senza pietà. Selvaggi imbrattati di sangue si lanciarono ululando dentro le capanne e le urla di donne e bambini che morivano sotto le asce arrossate sovrastarono lo strepitio della battaglia. Quando udirono quelle grida pietose, i soldati abbandonarono la porta e in un attimo i pitti la schiantarono e si riversarono dentro la palizzata anche da quella parte. Le capanne cominciarono a bruciare. «Andiamo al castello, uomini!» ruggì Conan e una dozzina di uomini lo seguirono mentre il barbaro si apriva inesorabile la via tra quella massa ululante. Strombanni era al suo fianco e vibrava la scimitarra arrossata come se fosse uno scudiscio. «Non riusciremo a difendere il castello, Conan!» urlò rabbiosamente il pirata. «E perché no?» Conan era troppo impegnato nel suo sanguinario lavoro per sprecare un'occhiata. «Perché?» Un coltello, vibrato da una mano bruna, affondò profondamente nella schiena del baracano. «Che il diavolo ti divori, bastardo!» Strombanni si girò barcollando e spaccò il cranio del selvaggio. Poi vacillò e cadde sulle ginocchia con il sangue che gli sgorgava dalle labbra. «Il castello brucia!» gracchiò e cadde riverso al suolo. Conan lanciò una rapida occhiata attorno. Gli uomini che l'avevano seguito giacevano tutti nel loro stesso sangue. Il pitto che esalava l'anima, calpestato dal cimmero, era l'ultimo del gruppo che gli aveva sbarrato la strada. Tutti intorno, la battaglia continuava violenta, ma per il momento Conan era solo. Non era distante dal muro meridionale, ancora qualche passo e poteva balzare sulla passerella, scavalcare il bordo e sparire nella notte. Ma si ricordò delle due ragazze sole nel castello, da quale adesso il fumo si alzava in grandi volute. Corse verso di esso. Un capo pitto dalla testa piumata, che si trovava accanto alla porta, si voltò con l'ascia alzata e dietro il cimmero gruppi di selvaggi si avvicinavano rapidi. Conan non rallentò l'andatura. Con un fendente della sciabola deviò l'ascia e spaccò il cranio dell'avversario. Un attimo dopo varcò la porta e la chiuse con il chiavistello, mentre le asce si conficcavano nel legno. La grande sala era invasa dal fumo. Fu costretto ad avanzare a tastoni semiaccecato. Da qualche parte una donna piagnucolava, emettendo brevi singhiozzi isterici come avesse i nervi scossi dall'orrore. Conan emerse da una spirale di fumo e si arrestò bruscamente, fissando la sala. La stanza era al buio e oscurata dal fumo. Il grande candelabro d'argento era stato rovesciato e le candele spente. L'unica illuminazione era data da uno spettrale bagliore che proveniva dal caminetto e dal muro contro il quale esso era sistemato. Le fiamme lambivano il pavimento e si innalzavano fino alle travi fumanti del tetto. E stagliata contro il sinistro bagliore, Conan vide una larva umana penzolare da una fune. Il viso del morto, così stravolto da essere quasi irriconoscibile, si volse verso di lui a un dondolio del corpo. Conan riconobbe il conte Valenso, impiccato ad una trave della sua stessa casa. Ma c'era qualcos'altro nella sala. Conan la vide attraverso la cortina di fumo. Una mostruosa forma nera, delineata contro il bagliore infernale. I contorni erano vagamente umani, sebbene l'ombra riflessa sul muro infuocato non lo fosse affatto. Crom, mormorò Conan stupefatto, paralizzato dal convincimento di trovarsi di fronte ad un essere contro il quale la sua spada era inutile. Vide Belesa e Tina, strette l'una all'altra, rannicchiate ai piedi della scalinata. Il mostro nero si innalzò, gigantesco, illuminato dalle fiamme, le enormi braccia spalancate. Un volto indistinto guardò biecamente attraverso il fumo, un volto disumano, demoniaco, orrendo. Conan intravide le corna ravvicinate, la bocca spalancata, gli orecchi appuntiti. L'essere si mosse pesantemente verso il cimmero attraverso il fumo, risvegliando un antico ricordo e la disperazione. Accanto al cimmero c'era il grande candelabro, un tempo orgoglio del castello dei Corzetta, 50 libbre d'argento massiccio, scolpito con figure di dei e di eroi. Conan lo afferrò e lo sollevò sulla testa. «Argento e fuoco!» Ruggì con voce suonante come una folata di vento e lanciò il candelabro con tutta la potenza dei suoi muscoli di ferro. 50 libbre d'argento volarono con terribile velocità, schiantandosi contro il nero petto. Nemmeno quel mostro poteva resistere a un simile proiettile. Il demone perse l'equilibrio e fu spinto contro il caminetto, che pareva una bocca piena di fiamme ruggenti. Un orribile urlo fece tremare la sala. Il grido di un essere non umano afferrato improvvisamente da morte molto umana. La mensola scricchiolò e pietre caddero dal grande camino, nascondendo in parte le membra nere contorte che le fiamme mordevano con furia elementare. Travi infiammate crollarono dal soffitto e colpirono le pietre con rumore di tuono, e tutto fu avvolto da una ruggente fiammata. Il fuoco strisciava lungo la scalinata quando il cimmero la raggiunse. Afferrò sotto un braccio la bambina svenuta e tirò in piedi Belesa. Fra il crepitare e lo scoppiettare del fuoco risuonò lo schiantarsi della porta principale sotto le asce di guerra. Conan si guardò intorno. Vide una porta di rimpetto al pianerottolo della scala e l'attraversò di corsa, portando di peso Tina e trascinando Belesa che pareva inebetita. Appena entrati nella stanza, uno schianto alle loro spalle annunciò che il soffitto del salone era crollato. Attraverso una soffocante cortina di fumo, Conan scorse una porta esterna che si apriva sulla parete opposta della stanza. Portando fuori la bambina e la ragazza, vide che la porta pendeva dai cardini rotti e la spranga era stata fatta a pezzi da una qualche terribile forza. Il demone è entrato per questa porta! L'ho visto, ma non sapevo! singhiozzò istericamente Belesa. Sbucarono nello spiazzo illuminato dal fuoco a qualche passo dalla fila di capanne che costeggiava il muro meridionale. Un pitto avanzava furtivamente verso la porta con gli occhi rossastri nel bagliore del fuoco e l'ascia sollevata. Lasciando cadere Tina e spingendo da parte Belesa, Conan sguainò la sciabola e la conficcò nel petto del selvaggio. Poi, sollevate di peso le ragazze, si diresse di corsa al muro meridionale. Il forte era pieno di nuvole di fumo che nascondevano in parte il sanguinoso dramma che vi si svolgeva. Ma i fuggitivi erano stati visti. Figure nude, nere, contro la luce smorta, balzarono fuori dal fumo, brandendo asce scintillanti. Erano ancora lontane qualche metro quando Conan si tuffò nello spazio tra le capanne ed il muro. All'estremità del passaggio c'erano altre figure ululanti che correvano a tagliargli la strada. Conan si fermò un attimo, lanciò Belesa sul bastione, poi Tina, e con un balzo le raggiunse. Sollevò Belesa oltre la palizzata e la lasciò cadere sulla sabbia, seguita da Tina. Un'ascia si conficcò in un tronco vicino alla sua spalla e poi anche lui saltò oltre la palizzata e raccolse le ragazze inebetite e disperate. Quando i pitti raggiunsero il muro, la spianata davanti alla palizzata era deserta. Restavano adesso solo i cadaveri. Otto. L'alba tingeva le onde scure di un tenue colore rosa. Lontana sulle acque rosate, una macchia bianca emergeva dalla bruma, una vela che pareva sospesa nel cielo perlaceo. Su un promontorio coperto d'arbusti, Conan il cimmero agitava un lacero mantello sopra un fuoco di sterpi verdi. Sbuffi di fumo salivano tremolanti verso il cielo dell'alba e svanivano. Belesa era rannicchiata accanto a lui e teneva un braccio attorno alle spalle di Tina. «Pensi che lo vedranno e che capiranno?» «Lo vedranno certamente. Sono rimasti al largo per tutta la notte sperando di avvistare qualche sopravvissuto. Hanno paura, giustamente. Sono soltanto una mezza dozzina e nessuno di loro sa navigare abbastanza da condurre la nave da qui alle isole Baraka. Capiranno i miei segnali. Sono nel codice dei pirati. Saranno ben contenti di navigare al mio comando, visto che sono l'unico capitano rimasto.» «E se i pitti vedono il fumo?» Rabbrividì, e voltando il capo, Belesa diede un'occhiata oltre la spiaggia e i cespugli coperti di nebbiolina, fino al punto, qualche miglio a settentrione, dove una colonna di fumo si innalzava nell'aria immobile. «È improbabile che lo vedano. Dopo avervi nascoste nella foresta, sono tornato cautamente indietro e li ho visti trascinare barili di vino e di birra fuori dai magazzini. La maggior parte di loro già barcollava. A quest'ora saranno crollati, troppo ubriachi per muoversi. Se avessi un centinaio di uomini, potrei annientare l'intera orda. Cromme Mitra! Quella non è la Mano Rossa, ma una galea da guerra! Quale nazione civile potrebbe mandare un'unità della sua flotta fin quaggiù? A meno che qualcuno non voglia parlare con tuo zio, nel qual caso ci vorrebbe una strega per evocare il suo spettro.» Guardò accigliato verso il mare nello sforzo di individuare i particolari del vascello attraverso la nebbia. La nave si stava avvicinando di prua, per cui poteva scorgere solo l'ornamento dorato che stava a prua, una piccola vela gonfiata dalla lieve brezza di terra e le file dei remi che si sollevavano e ricadevano come un'unica coppia ai due lati della nave. «Beh, se non altro ci porteranno via. Sarebbe una lunga camminata fino alla zingara. Sino a che non scopriamo chi sono e se sono amici, non dite nulla di me. Penserò ad una storia che vada bene, prima che siano qui.» Conan calpestò il fuoco, restituì il mantello a Belesa e si stirò come un grosso gatto pigro. Belesa lo guardò meravigliata. Le sue imperturbabili maniere non erano una posa. La notte di fuoco, sangue e massacro e la successiva fuga nella foresta tenebrosa non l'avevano minimamente scosso. Era calmo, come se avesse passato la notte tra feste e baldorie. Alcune bende ricavate dall'orlo della tunica di Belesa coprivano 3 o 4 ferite di poco conto che si era procurato combattendo senza l'armatura. Belesa non aveva paura di lui, si sentiva più sicura di quanto non si fosse mai sentita da quando era sbarcata su quella costa selvaggia. Il barbaro non assomigliava ai pirati, uomini civili che avevano ripudiato ogni codice d'onore e vivevano beatamente senza. Conan, invece, viveva secondo il codice della sua gente, barbara e sanguinaria, ma che almeno si atteneva alle proprie regole. «Pensi che sia morto?» Conan non le chiese di chi stesse parlando. «Credo di sì. Argento e fuoco sono tutte e due mortali per gli spiriti malefici, e quel mostro li ha avuti in abbondanza!» «E il suo padrone?» «Totamon! È tornato a nascondersi in qualche tomba stigiana, suppongo. Questi stregoni sono gente strana!» Nessuno dei due sollevò più l'argomento. La mente di Belesa rifuggiva dal ripensare alla scena in cui quella nera figura avanzava nella sala e una vendetta, a lungo rimandata, era orribilmente consumata. La nave appariva ora più grande, ma ci voleva ancora un po' di tempo prima che toccasse riva. Belesa chiese: «Quando sei arrivato al castello, hai accennato di essere stato generale ad Aquilonia e di aver dovuto fuggire. Che cosa ti è successo?» «Fui tradito dalla mia stessa follia, la follia di avere fiducia in quella faccia di serpe di Numedide. Mi fecero generale per alcuni piccoli successi riportati contro i Pitti, e poi, dopo aver disperso con i miei uomini un numero 5 volte superiore di selvaggi nella battaglia di Velitrium e aver spezzato la loro confederazione, fui richiamato a Taranzia per il trionfo ufficiale. Solletica davvero la vanità cavalcare a fianco del re mentre fanciulle sporgono davanti a te petali di rosa. Ma poi al banchetto quel bastardo mi fece bere del vino drogato. Mi risvegliai in catene nella torre di ferro, aspettando la mia esecuzione.» «E per quale motivo?» «E come faccio io a sapere che cosa passa in quella cosa che quell'idiota chiama cervello? Forse alcuni generali aquiloniani, offesi per la rapida ascesa di un barbaro forestiero fra le loro sacre file, avevano alimentato i suoi sospetti. O forse si era offeso per qualche franco commento a proposito della sua politica di spendere il tesoro reale per ornare Taranzia con statue d'oro di se stesso, anziché per la difesa delle frontiere. Il filosofo Alcemides mi confidò, proprio prima che bevessi il vino drogato, che sperava di scrivere un libro sull'uso dell'ingratitudine come principio di politica, servendosi del re come modello. Ahimè, ero troppo ubriaco per capire che cercava di mettermi in guardia. Avevo tuttavia degli amici che mi aiutarono a fuggire dalla torre di ferro, mi diedero un cavallo e una spada e fui di nuovo libero. Tornai a cavallo nella Bossonia con l'intenzione di sollevare una rivolta iniziata dalle mie stesse truppe. Ma quando arrivai scoprii che i miei gagliardi bossoniani non c'erano più, erano stati mandati in un'altra provincia e al loro posto trovai una banda di bifolchi provenienti da Tauran, la maggior parte dei quali non avevano mai udito parlare di me. Continuarono a tentare di arrestarmi, così dovetti spaccare qualche cranio per avere via libera. Passai a nuoto il fiume del tuono con le frecce che mi sillavano negli orecchi. Ed eccomi qui. Per Crom, giurerei che lo stendardo su quella nave è quello del leopardo di Poitain, se non sapessi che è impossibile. Andiamo, ragazze!» Condusse le ragazze sulla spiaggia mentre il canto del timoniere dalla nave si faceva più forte. Con un ultimo sforzo sui remi, l'equipaggio spinse la prua della galea sulla sabbia. Mentre gli uomini si precipitavano a terra, Conan lanciò un grido. «Prospero! Trocero! Per tutti gli dèi, cosa ci fate qui?» «Conan!» Ruggirono i due e corsero a circondarlo, battendogli delle manate sulla schiena e stringendogli le mani. Parlavano tutti insieme, ma Belesa non capiva cosa dicessero, perché parlavano in aquiloniano. Quello che era stato chiamato Trocero doveva essere il conte di Poitain, un uomo snello e dalle spalle ampie, che si muoveva con la grazia di una pantera, nonostante il grigio che gli spruzzava i capelli neri. «Che cosa fate qui?» «Siamo venuti a cercarti!» «E come avete fatto a sapere dov'ero?» L'uomo massiccio e vigoroso, chiamato Publio, indicò un individuo vestito con la tunica nera dei sacerdoti di Mitra. «Dexiteus ha scoperto dov'eri con le sue arti occulte! Giurò che eri ancora vivo e ci promise di condurci da te!» L'uomo vestito di nero si inchinò solennemente. «Il tuo destino, barbaro, è legato a quello di Aquilonia. Io non sono che un piccolo anello della catena del tuo destino, Conan di Cimmeria. Bene, ma che cosa c'è sotto tutto questo? Crom sa quanto sono felice di andarmene da questa spiaggia dimenticata, ma perché siete venuti a cercarmi? Rispose Trocero. Abbiamo rotto con Numedide, Conan, non potendo più sopportare le sue follie e la sua oppressione, e cerchiamo un generale che guidi l'esercito in rivolta. Sei tu quell'uomo, Conan! Conan rise di gusto e infilò i pollici nella cintura. Mi piace trovare qualcuno che capisce il vero valore. E conducetemi alla mischia allora, amici miei! Si guardò intorno e vide Belesa che se ne stava timidamente discosta dal gruppo. Fece un cenno verso di lei con rozza galanteria. Signori, questa è Lady Belesa di Corzetta. Poi parlò alla ragazza nella sua lingua. Possiamo riportarti a Zingara, ma che cosa farai dopo, mia Lady? La giovane scosse la testa, scoraggiata. Non lo so, non ho né denaro né amici e non sono capace di guadagnarmi la vita. Forse sarebbe stato meglio che una di quelle frecce mi avesse colpito al cuore. Non parlare così, Milady! Lavorerò io per tutte e due! La implorò Tina. Conan estrasse un sacchetto di cuoio dalla cintura. Non sono riuscito a prendere i gioielli di Totmekri, ma qui c'è una robetta che ho trovato nel cofano dove ho preso i vestiti. Rovesciò una manciata di rubini sfavillanti nel palmo della mano. Da soli questi valgono una fortuna. Li rimise dentro e porse il sacchetto alla ragazza. Ma non posso prenderli, Conan! Certo che puoi, tanto valeva lasciarti scotennare dai pitti anziché riportarti a Zingara a morire di fame. So che cosa significa essere senza un soldo in terra iboriana. Nel mio paese qualche volta ci sono carestie, ma la gente soffre la fame solo quando non c'è cibo per nessuno. Ma nei paesi civili ho visto gente rimpinzarsi di ghiottonerie e altri morire di fame. Sì, ho visto uomini cadere e morire per gli stenti contro le pareti di negozi e magazzini pieni di cibo. Anch'io a volte non ho avuto da mangiare, ma la spada mi ha procurato sempre ciò di cui avevo bisogno. Ma tu, ragazza mia, non puoi farlo. Perciò prendi i rubini. Potrai venderli e comprarti un castello, e schiavi e abiti eleganti. E allora non ti sarà difficile trovare un marito, poiché gli uomini civili desiderano tutti una moglie che possegga queste cose. E tu che farai, Conan? Conan fece un sogghigno e indicò gli aquiloniani che lo attorniavano. Ecco, sono loro la mia fortuna. Con questi sinceri amici avrò tutte le ricchezze di Aquilonia ai miei piedi. Il possente Publio parlò. La tua generosità ti fa onore, Conan. Avrei voluto che prima mi avessi consultato. Perché le rivoluzioni non si fanno solo con i torti, ma anche con l'oro. E i pubblicani di Numedide hanno impoverito Aquilonia a tal punto che sarà difficile per noi trovare il denaro per arruolare mercenari. Ah, ti darò oro a sufficienza per far sollevare ogni spada d'Aquilonia. In poche parole, il barbaro raccontò del tesoro di Tranikos e della distruzione della colonia di Valenso. Ora il demone è andato via dalla caverna. I pitti si saranno separati per tornare ai loro villaggi. Con un gruppetto di uomini ben armati potremo arrivare rapidamente alla caverna ed essere di ritorno prima che si rendano conto che siamo ancora qui. Che dite? Ci state? Gli rispose un applauso tanto fragoroso che Belesa ebbe paura potesse attirare l'attenzione dei pitti. Conan le lanciò un'occhiata maliziosa e le mormorò in zingariano, coperto dal frastuono. «Che te ne pare di re Conan?» Non suona niente male, eh? Fine. La Locanda della Tormenta è stata lieta di presentare Conan, il tesoro di Tranikos. Grazie per l'ascolto.